Grandi amici della notte, siamo qui, Runtime Radio che ritorna anche questa volta con questo nostro nuovo episodio di OGM Ottimisti Genericamente Mortificati, alle ore 21.01 con me Walter Sbano. Ciao Walter. Perché hai fatto la voce? Hai presente quelli che lanciano i video, gli youtuber? Benvenuti amici, questo noi siamo video, ciao! Guarda. Sì, c'ho un po' questo vizio. Sembri quel deficiente, posso dirlo? Tanto non ci ascolta, quel deficiente di Black Geek. Non so chi sia, ma è un ragazzino di 18 anni, frocio per iPhone. No, a cui piacciono molto gli iPhone. Che tra l'altro ha tipo 600.000 follower. Fire. Un bastardo. Saldo. È un po' invidioso. Sono un po' invidioso. Vabbè. E 21.01 qui su Runtime Radio. Senza le campane. Punto ottimisti genericamente mortificati. Punto non esiste. Mi raccomando, sì, alle 21.01 senza campane. Anche se per noi rimane la tradizione. E niente. Sentite che schifo? No, che dico... schifezza. Vi ricordiamo che siamo quasi in procinto di andare online in questa nostra diretta del mercoledì sera, in questa puntata che si intitola Pronto due volte, così poi vi spieghiamo perché. Ma in realtà non ha molto senso, come sempre Walter Sbano che è già in postazione, sta studiando la scaletta che non ha avuto tempo di studiare in queste settimane. Io neanche in questo momento la sto studiando, perché chi se ne frega, e ci vediamo fra poco. Nel frattempo, in questa prediretta, fateci sapere se si sente bene la vociferazione. A tra poco! Runtime Radio presenta Ottimisti genericamente mortificati. E mentre si aprono e si chiudono le porte dello studio, dai. No, mi piaceva così, rincalzato. Però, cioè, si può iniziare in questo modo indecente? Zitto, assolutamente. Mentre si aprono e si chiudono le porte dello studio, sbattono le sedie e c'è assolutamente la più totale indisciplina per quanto riguarda ovviamente anarchia! La gestione di questo studio, grazie per avermi distrutto anche i timpani. Siamo qui ovviamente con Ottimisti Genericamente Mortificati, come tutti i mercoledì sera, su www.rantimeradio.it con me Walter Sbano. Buonasera, io ho subito una domanda. Dai, estrinseca la domanda. Perché il correttore ortografico? Perché soprattutto? Perché il correttore ortografico del mio cellulare converte, trasforma ogni volta Gusella in Gisella? Non lo so, potresti chiederlo a Gisella. Quindi c'è Simone e Gisella. Buonasera. Cambio di nome. Salve, sono tornato. Non ti abbiamo presentato ancora. Non ti abbiamo presentato. Io sono Gisello invece. Lui è Marco Gualdi. Ciao. Che è entrato, è uscito, si andava per cazzi suoi senza. Noi siamo venuti, veniamo sempre da trasmissione podcast. Lui viene. Dove la gente, mentre noi parlavamo, si faceva i cazzi suoi. E qui continua. Infatti. Salutiamo, caro Walter, tutti gli amici in chat. Ma abbiamo Davide Gatti, abbiamo Lucio Platò. Non ce la faccio a dirlo, Plantone. Scusami, Lucio, non lo faccio, devo imparare i cognomi. Platò. Plantone. Ma io lo chiamerei Platone, è meglio. Filosofico, infatti, certo. Esatto. Poi abbiamo, non vorrei che poi lo confondessero con quell'altro pseudofilosofo che gira adesso in televisione. Come si chiama quel che viene trollato? Vabbè, mi verrà dopo il nome. Poi abbiamo Lobby Frontali, Pier G, Rizzard. E loro, insomma, sono i primi che hanno il coraggio di palesarsi. Poi, quando ingraniamo verso le 9:30, di solito hanno il coraggio di presentarsi anche gli altri. Sì, ecco. Sì, c'è qualcuno. E poi verso le 9:45 vanno per la tangente. Qualcuno che ha scritto anche questa sera ci sono anch'io, ma non ricordo chi, perché non è assolutamente importante. Questa è una puntata che non ha un tema. Quindi attenzione, cioè diremo notizie a cazzo così. Però ce l'ha un piccolo tema, cioè nel senso, perché noi che cosa facciamo su OGM Ottimisti Genericamente Mortificati di solito? Raccontiamo un po' i cazzi nostri. Le mortificazioni che accumuliamo, esatto, nella settimana. Esatto, quindi ma i cazzi nostri sono importanti perché durante questa settimana sono successe delle cose che... Secondo me ci vorrebbe una base apposita, cioè abbiamo una cosa un po', come dire... Non sono organizzato. Un po' triste, nel senso, come abbiamo fatto l'altra settimana. Ah, una cosa triste, aspetta. Un po' sì. Aspetta. perché sulla via dell'emancipazione, quando un ragazzo diventa grande e intraprende la sua strada, la sua indipendenza, costruisce il suo percorso andando a vivere da solo, cominciando a trovare le utenze, a comprarsi le cose che servono per sopravvivere, a volte ci sono degli ostacoli, vero Sbano? Ci sono degli ostacoli. Molto, possono essere veramente ripidi da saltare e non c'è olio cuore che tenga. E poi soprattutto se come noi sei fortunato a vivere in questa ridente località, anche un po' amena località alle porte di Roma, che si chiama Monterotondo. E molti si sono domandati, perché è chiaro che la domanda ti viene spontanea, ridente cittadina, ma che cazzo c'ha da ride? Infatti non si sa che c'è da ride. Perché qui non c'è neanche la differenziata. Ma aspetta, che parla schifo. Per il tuo quartiere, io ce l'ho. Ah, è vero, tu ce l'hai la differenziata. Ed è una rottura di scatole, posso dirlo in maniera assolutamente quindi, incivile. Quindi siamo noi di Monterotondo Alta che siamo fortunati. No, c'è gente di Monterotondo Alta che fa la differenziata e per sfregio viene giù a buttare la differenziata. No, veramente c'è gente dello secondo scalo che esatto. Per non fare la differenziata viene sui esatto. Cassoni di si compensano questo. No, certo. Secondo me è più probabile che vengano da su a giù. Ecco, no, da giù a su. Pizzi, cellulare, sì. Non ci siamo. Non ci siamo. Questa. Vabbè, ma tu apri e chiudi le porte, andiamo in giro. Giro, fai quello che cazzo le porte per manco fosse il guardiano del firewall. Ma io che apro e chiudo le porte per andare a prendere il cellulare, se no fa rumore. Vabbè, comunque, tra questi motivi, insomma, di cui vi stavamo parlando, c'è anche il fatto che sono 3 settimane che la scaletta di OGM si arricchisce perché nessuno la legge, nessuno la guarda, però tutti incollano cose dentro. E quindi praticamente questa puntata dovrà essere una puntata per metà per smaltimento delle strozzate che abbiamo scritto nella scaletta, che di cui nessuno si ricorda niente, e per l'altra metà dovremo parlare poi di argomenti seri come quello delle utenze, perché prima parliamo di questo argomento serio che ci chiede Pier G: quanti abitanti ha Monterotondo? Troppi. Sì. Gli ho risposto in chat, circa 45.000. Sì, anche 50.000. Non a caso l'ospedale non funziona. No, l'ospedale funzionava ed era anche un ospedale, è un presidio medico. Scusate ragazzi, devo spiegare una cosa all'hobby frontali. Che dice: come differenziata in civile il piccolo De Luca che è me che sta morto bestemmiando? No, io da incivile dico che palle la differenziata, non ho detto che è differenziata in civile, perché, insomma, il problema della differenziata è che è un impegno un po' gravoso, soprattutto se poi, come succede da noi, ogni comune, ogni quartiere la applica diversamente dagli altri. Però di per sé non c'è niente di male a differenziata, ma tanto prendono tutto e buttano tutto insieme, sai, quelle cose che si sì, ma non puoi rimanere indifferente. Allora, no, ma non puoi rimanere indifferenziato, se no finisci esatto. Nell'umido. Mi permetto di rispondere io adesso a Piergi che dice: allora non è piccola. In realtà Monterotondo c'ha questo problema, che Monterotondo è appiccicata a Roma e quindi è cresciuta esponenzialmente molto rapidamente, soprattutto negli ultimi 20-30 anni. Mi conferma. È cresciuta molto, ma il problema di Monterotondo non è un problema, è un grande vantaggio, è che Monterotondo è più grande dentro che fuori. Esatto, il problema di fondo è che pur crescendo praticamente è una borsa conservante dei D&D. No, è un tardi. Pur crescendo esteriormente, in realtà non è cresciuta nel suo cuore e quindi qui sono ancora di CPU spieghiamo anche una cosa, che il Lazio c'ha questa caratteristica un po' anomala, che ha Roma, che è una città da 6 milioni di abitanti, e poi gli altri capoluoghi di provincia, quindi Frosinone, Latina, Rieti, eccetera, sono cittadine da 120, 130, 140 mila abitanti, quindi anche un comune come Monterotondo da 40 mila abitanti comincia a essere grandicello. Però non hai, diciamo, essendo una città, una regione romacentrica, se non ci fosse stata Roma poteva essere quasi un capoluogo di provincia, tia. Sì, così. Poi sì, così. Comunque, torniamo al discorso della città, insomma, che non so perché stiamo parlando della città in realtà. Perché ci sono i problemi delle utenze. No, delle utenze. Ah, c'è questo problema. Non sì, si sa chi soffie. Delle utenze. Che quello quando ti arriva il tizio di Telecom. L'omino in salopetto. Di chi si fio tu? Che, quindi, e se non può rispondere, l'utenza viene attaccata. Ma direi di dare la parola a questo giovane Virgulto che sta cercando di avere una vita privata. Quindi abbiamo il nostro utente anonimo Ubaldo Gisella. No, allora aspetta, introduciamo bene la questione, perché introduciamogliela, poi in realtà sì, prima stavamo dicendo delle cose, poi sono subentrate le altre, io mi sono scordato il discorso che stavo facendo, però ma non importa. Introduciamo la questione, che è quella di Gusella che è venuto a vivere a Monterotondo. Che oramai, che la domanda è un po' come che quella che facciamo tanto ai nostri ascoltatori, no, ma chi te l'ha fatto fare? Ma esatto, chi te l'ha fatto fare? Che poi Monterotondo in realtà è per Runtime un po' come, è come New York per gli americani. Cioè, nel senso, cioè, è la città mito. C'è Monterotondo e poi c'è tutto il resto. È il centro, no? Del mondo. Esatto. Per però dobbiamo ammettere che è anche un po' colpa nostra, perché noi li abbiamo incartata bene prima di venire a Monterotondo. No, ma vieni, si sta bene. Abbiamo anche millantato l'Empire State Building. Ma secondo me lui è esatto. Ma lui è contento perché sta vicino a noi. Ogni tanto magna, scrocca, fa, no, poi offre. Quindi, insomma, è bello questo clima di amicizia incorporata. Però, che fa? Lui ovviamente adesso che ha questo appartamento per conto suo si deve approcciare verso le utenze, e devo dire che un po' ci ha capito un cazzo, perché poi bisogna anche perché dire, perché spieghiamo, quando vai a vivere da solo la prima necessità è YouPorn, e non ci capisci un cazzo, cioè, la prima cosa non ci capisci, e poi un po' pure lui un po' E poi in effetti è complicato tutto questo meccanismo, questo dedalo, allora segna questa... Simo, perché fino a mo' ti ha detto sì, che sei uno scroccone, che non ci capisci un cazzo. E io ti ho detto che sei di parola. Che sono pure sfigato. Quindi vai, andiamo. Può solo migliorare. Guarda il lato positivo. Allora, e quindi praticamente, vabbè, a parte le utenze, gas, luce. Che se ne può anche fare a meno, diciamo la verità. Se ne può fare a meno lui in particolare. Però si è trovato il gas staccato senza motivo. Però, amici di Runtime, vediamo in chat chi risponde più velocemente. Senti, qual è? Posso provare un po' a spegnerla. Qual è la cosa che non può assolutamente mancare? No, è tutta un'altra cosa. Qual è la cosa che non può assolutamente mancare nella casa di un Runtimaro? La frigna. Quella manca spesso invece, però. Che cos'è che non può mancare? L'utenza che non può mancare. Assolutamente internet. E non suggerire. Che cosa? Fate la domanda, io ho risposto. No, ma era per gli amici in chat. Ah, però vabbè, ormai ci siamo svelati. Internet, quindi cosa fai? Due possibilità: o metti link come quel deficiente della pubblicità che va a cercare la connessione nella piscina, ecco, che tu dici ma perché dato hai dato il deficiente a Gusella, comunque io voglio dire, no, ma io lo sapevo, che Gusella veniva da, però so anche che lo odia, di conseguenza l'ho detto con cognizione di causa. No, perché quella pubblicità l'avete vista, è ridicola quella... Già che ci sono le Iene di mezzo mi fa capire che c'è puzza di sola a 500 metri, ma che tra l'altro, ecco perché qui qualcuno ha scritto, Rizzard ha scritto sulla chat la wifi di scrocco, ma pure Rizzard c'è una storia che ti potrebbe raccontare. Che l'altro giorno, beh, Rizzard, mandaci un vocale. No, abbiamo il numero di telefono. Abbiamo il numero di telefono, però sì, Simone non si ricorda. Sì, il numero di telefono. Valla a trovare. Posso giocare a Candy Crush? Se te... E questo è per no, non è quello, che non mi ricordo il numero telefonico. Comunque, Simone Gusella, tempo fa, era tutto contento perché ci ha detto: ah, mi sono affacciato alla finestra e mi sono attaccato a una rete wifi che è potentissima. Ma quanto è durata sta cosa? No, in realtà non è potentissima. Prende solo il telefono se lo spiaccico alla finestra e non posso muoverlo. Penso alla gente che ti guarda da fuori, che fa il saluto fascista, esatto, alla finestra, sì, tutto il giorno. Sì. È bellissimo. Ecco perché il vicino rumeno mi ha detto: chi è quello che... Comunque, il numero di telefono, secondo me, se lo chiediamo ai nostri ascoltatori, lo sanno. Ce lo tirano fuori. Lo sanno, secondo me. I nostri ascoltatori lo tirano fuori. Inizia per 06, questo lo so. 06. Sì, 5, anche 56. 56. Allora, era 06, 56, 56 e poi non mi ricordo. Però posso provare. Però mi dovete dare il cavo. So, possiamo fare una cosa molto divertente. Voi provate a fare i numeri. Tanto Sbano non sta a fare i cazzi suoi. Io sto cercando il numero di telefono. Il problema è un altro: che tu ci chiedi un cavo che non sappiamo dov'è. Abbiamo anche spento la luce, non possiamo vedere nulla. Comunque, facciamo un bellissimo gioco a premi. Cioè, cominciate a telefonare a tutti i numeri che vi vengono in mente con 0656. Esatto. E vedete se ci rispondiamo noi. E fate. Quanti vaffanculi prendete? Che è la time, sì, allora. No, ma stronzi, posso dire una cosa? Scusa, visto che in questo periodo videoludica non si fa per vari motivi, ma perché non regaliamo qualche codice gioco di merda a noi? Perché potrebbero essere stati riscattati da altri utenti. Insomma, l'ho trovato subito. Lo potremmo fare. Allora, Pizzi si è ravanato nelle mutande e ci fa sapere che l'ha trovato subito. Quindi ne siamo lieti per però lui. Si è impicciato. E ora è collegato. Possiamo ricevere telefonate. Non sappiamo se ci arriveranno. Non vi preoccupate, io sto cercando. Ce l'ho il numero, ce l'ho. Dillo, Gusella. Un attimo che non ci vedo. 06 56 56 95 71. Ripetiamolo per gli amici da fuori Roma. Ripetiamolo. 06 56 56 95 71. Ma okay, questo 06. Adesso mi dovete dare il tempo di trovare l'applicazione, perché Allora ragazzi, tenetevi gli astronzi dentro per dopo. Allora, se per caso poi Rizzard ci vuole raccontare la sua storia mitologica con la DSL, la non DSL eccetera, ci può chiamare al numero. Nel frattempo, allora Gusella, dunque tu sei arrivato a Monterotondo dopo 3-4 giorni che hai consumato tutti i dati mobili su YouPorn, hai detto ok, non solo, mi devo consumare anche 2-3 calendari, magari consumare i dati, rotoli vertigenica, hai detto ok, qua urge farci una fibra, una DSL, magari consumare i dati, perché io ho fatto Iliad che non prende un cazzo in questi giorni. Sì. È una roba veramente terribile, per cui prende la faccia di tutti quelli che mi hanno dato addosso perché ho fatto una recensione negativa. Nel frattempo vi annuncio che le linee sono aperte, quindi quando volete, se volete, potete tranquillamente chiamarci e raccontarci le vostre storie relative a wifi a scrocco oppure attivazioni bastarde di linee telefoniche. Non fateci fare brutta figura, insomma, telefonate. Se intanto vogliamo mettere la... Guarda, facciamo una cosa, Simone, prima di iniziare, se tu mi ridici il numero io lo scrivo in chat. 06 56 56 56 9571, lo so anche a memoria. Grande, ormai. Infatti ho sbagliato. È sbagliato? No, è giusto. Okay. Ti pare che sbaglio io? No, chi? Siamo tutti infallibili. C'è Chini qua. Allora, insomma, quindi dicevamo, ti serve giustamente questa linea fissa. Allora, tu che fai? No, allora, facciamo un passo indietro. Io prima abitavo a Roma, Monte Sacro. Infatti, che è una zona nord. Vabbè. Intanto la gente si mena qui in studio. No, dovete, sì, voi non potete vedere, ma volano pizzi, ciabatte. Pizzi e Gualdi si guardano, si scambiano sguardi torbi. No, non mi fate ridere perché mi partono le puzze stasera. Attenzione, lo dico subito. E allora fatelo piangere. Era radio qualità questa sera perché no, mi avvicino. No, ho guardato male Gualdi perché non si sente quando parla. E dov'è il microfono, Cristo? Ecco, adesso si sente. No, allora io con uno che bestemmia non ce la faccio il programma. No, buono, fermo. Mi raccomando, non iniziate perché sennò è la fine. Allora, riprendiamo la trasmissione. Prima io abitavo a Roma Montesano. Con Guido. Si sente dall'accento. Vabbè, sì, che abitavi a Roma Nord. Molto nord. Esatto. Vivevo questa storia di amore con Guido dall'Argentina, giusto? Dai, lasciamo stare queste cose personali. Guido non ci sente tanto. No, ma Guido non ci sentirà neanche morto. Ed ero in questa casa con due splendidi coinquilini. Oh, guarda, c'è Guido fuori dalla finestra. Vai, fatelo entrare. Che fa? Con uno che si scatarrava, faceva yoga, spendeva soldi per andare, poi ti richiedeva i soldi per ripagare. Aspetta, scatarrava mentre faceva yoga? No, magari, almeno facevamo una cosa insieme. No, questo andava in bagno anche a luna di notte. Tutti questi versi qua. E l'effetto dello yoga, cioè, si sa, fa spurgare. L'effetto collaterale dello yoga. È proprio io divino. Sapevo il sudore del sole, questo diventa il sudore accesso, però sì. Vabbè, ognuno, ok. Buona nota, accesso. Ma sì, perché c'è questo, aveva 40 anni, l'ho scoperto dopo, che in effetti... Ammazza, 40 anni? 38, che 38, 40, che ne dimostrava anche di meno, sui 30, non di più, però secondo me. Infatti io ho detto attenzione a quello che dici dei quarantenni qua dentro, No, non siamo quarantenni, ne dimostriamo di meno, certo. Noi ne facciamo 40 in 3, esatto, anche di livello intellettivo, sì, ma anche meno, vabbè. Beh, insomma, comunque sto qua un po' strano, anche perché sto qui non sapeva praticamente niente di convivenza in casa. Cioè, questo prima comprava le cose, poi le diceva alla padrona di casa, e questa giustamente diceva no, ma prendeva la mensola, bucava i muri, metteva le mensole. È arrivata la padrona, ma lo sai che quel buco lì, che quella parete lì, se la buchi probabilmente può crollarti addosso, cose così, cioè, ma che vuoi che sia? Giustamente anche l'impianto, una casa pericolante, diciamo. Esatto, sì. E vabbè, tutta sta storia è nata da internet, perché lì avevo Linkem. Ovviamente, essendo una casa, cioè io avevo affittato la stanza, non la casa, avevo bisogno di internet senza linea fissa, perché cioè, è troppo veramente affittare una casa con internet, giusto? Assolutamente sì. Guarda, discreto, comunque, che è successo? Quindi è successo che avevo questo link, andava abbastanza bene, tanto ho sferito qui a Monterotondo, come stavamo dicendo prima. Ovviamente Linkem non prende, ho detto vabbè. Ma io questa cosa che non prende non l'ho capita, Linkem usa comunque le frequenze LTE. Usa LTE, sì. Quindi non c'era la loro... No. Strano, ma vabbè. Non funziona, funziona tipo a 2 chilometri da casa mia. Beh, sarebbe il caso di dirlo alle Iene comunque, così vengono a risolvere il problema. Allora dico, vabbè, c'ho Iliad, ho 30 giga, magari mi faccio un'altra sim il con una saponetta. Colpo di genio, ragazzi, il colpo di genio, usiamo come hotspot il cellulare con Iliad, bravo. Ci sono riuscito financo io in Puglia. Peccato che Iliad funziona. Poco. Poco. Invece qui Iliad, come va Gusella Iliad? Non va, decisamente non va. Tra una merda e funziona molto bene? Allora, praticamente le chiamate, se hai il 4G attivo, le chiamate possono non arrivare. Tu hai lì il telefono sotto mano, lo guardi, non si accende. In realtà la chiamata arriva, ma viene bloccata da un non si sa cosa quando hai il 4G attivo. E il giorno dopo, quando riavvii il telefono, ti viene mandato l'SMS: tizio ha chiamato allora. Ieri. Esatto. Utile, un servizio molto utile. Molto utile. Ti chiamo. Ti faccio sapere che ho qualcosa. Anti-stalking, sì, anti-stalking. E salutiamo anche Vargion, intanto che ci ha raggiunto. Ciao Leo. Vargion. Metà delle chiamate che arrivano dopo 2-3 minuti saltano. Quindi, lo sai che ieri. Aspetta, devo spiegare una cosa a Rizzard. Non è che lui non abbia controllato la copertura di Linkem, lui Linkem l'ha fatta quando abitava a Roma e lì funzionava. Esatto, lì funzionava anche a dire abbastanza bene, non mi lamento. Che ci sarà la differenza tra Monterotondo e Roma? In fondo sempre Roma è tutto sommato. Monterotondo in realtà è provincia di Ravenloft, per chi capisce di cosa parlo. Monterotondo è città metropolitana di Roma, quindi c'è più di questo, insomma, no? Allora l'uno dice, vabbè, sarà la stessa roba, no? Ha detto Michela che Monterotondo è Twin Peaks, attenzione. Esatto, quindi entrano nello studio così a cazzo de cane proprio. Professionalità prima di tutto, esatto. E vabbè, quindi praticamente quindi Linkem non andava, Iliad va malissimo. Intanto perché continuano a chiamarti Gisella, io non so perché. Ormai sarà sempre ormai così. Basta, ormai andrò a cambiare i miei documenti. Ma cambia sesso direttamente. Dai, così ti sei inculato. Giselle, diventerò Giselle. Cerchiamo di fargli il racconto, Corello. Sta diventando un parto. Allora, siamo rimasti. Sembra un riassunto del Gualdi. Io direi che siamo arrivati punto, che Iliad non funziona. Fai un riassunto per la gente che si mette in ascolto in questo momento. Il riassunto delle puntate precedenti. No, allora, vai. Riassunto è che a Monterotondo Linkem, che avevo già, tra l'altro, già pagato, non prende. Iliad, a cui volevo affidare il mio preziosissimo internet, prende malissimo. Quindi prende tipo l'H, che è tipo un 56k o poco più. Da 2 settimane ho chiesto l'attivazione di FastWeb. Qua è successo tutto un macello. Ed ecco qui entriamo nel vivo della storiella. Esatto, sto palpitando. Perché allora, vabbè, ho fatto FastWeb, mi chiamano domani mattina, deve arrivare il tecnico ad allacciare la linea. E ok, tutti contenti. Ieri, no, l'altro ieri, non mi ricordo già più, ho ricevuto questa chiamata: ah, buongiorno, siamo FastWeb, non possiamo attivarlo, ci vogliono almeno 65 giorni, può aspettare, oppure insomma, per legge può annullare il contratto qui al telefono. Che fai, aspetti 65 giorni? Ovviamente ho annullato. Mamma mia, che tuoni, ragazzi. E questa è Monterotondo, tranquillo, è tutto normale. Era per creare l'atmosfera. Per cui io ho annullato. Senti, questi, un attimo, dobbiamo registrare la chiamata. Allora, lei è Simone Giselle, sì, abita in questa via, lei è nato il giorno. Eri tu? Sì, ero io. Per cui ho fatto... Basta, non faccio applausi più per me, applausi per me. Non faccio più giù. Grazie, perché fa fastidioso. No, però sono belli, dai. E poi non finisco. No, dai, usali che fanno atmosfera. Almeno diventa un po' più interessante quello che sto per dire. E praticamente annullo perché questa chiamata qua, quindi questi sapevano tutto di me. Dopo 2 ore ho attivato Vodafone. Dopo un'altra ora mi chiama qualcuno. Chi è? Tecnico. Ciao, sono qualcuno. Sarà sì. Vino in salone. Ciao, sono Guido. No, non è vero. Sono il tecnico FastWeb. Allora giovedì devo venire lì ad allacciare la linea. No, c'è qualcosa che non va. Mi avete appena chiamato che mi avete detto che è annullato. E no, è impossibile perché le disattivazioni le facciamo noi. Comunque FastWeb non disattiva così tramite call center. E dobbiamo comunque, cioè ormai si va avanti, l'attivazione si fa. Ah. E quindi adesso rischio di dover pagare 2 operatori e di usarne solo uno. Adesso succederà che FastWeb e Vodafone si sovrapporranno con la sua ovviamente coppia. Ho subito mandato l'annullamento da Vodafone e in teoria sperimenterai il FastWeb. Qualcuno sta blastando Gusella intanto, ma nel vero senso della parola. Ci sparano. Intanto continuano a chiudere e aprire porte così, vabbè. Sono i poltergeist. Lobby frontale dice: ma sono tuoni veri? Certo che sono tuoni veri, mica usiamo roba finta noi qua. Sono tuoni veramente veri. Veramente falso, molto come il veramente bello di qualche decennio fa. Certo, certo. Vabbè, insomma, ragazzi, 056 56 56 9571, ancora qui non sta squillando, non va mica bene. Vai, Simone. Per cui da un mese che sono senza internet e per chissà quanto tempo ancora non ce l'avrò, perché sì, viene il tecnico, ma poi mi devono spedire il modem. Perché è troppo facile far venire. No, aspetta, che viene a fare il tecnico? Viene ad allacciare la linea, però di fatto non porta il modem. Lo so, fa un po' ridere sta cosa. Fa ridere. No, fa ridere perché, cioè, io sì, ok, sono un po' impedito in alcune cose, però ma non... io mi sto sforzando, ma sono tutte, no, giuro, sono tutte novità che ci stai insegnando tu in questi giorni, perché sarà che veniamo da attivazioni di qualche anno fa, ma poi oltre ad averci spiegato tutti questi canoni, tutti questi costi nascosti, pure sta novità che... Perché poi in realtà Fastweb voleva attivarmi, ho fatto la richiesta 2 settimane fa, voleva attivare internet il 30 novembre, quindi tra un mese e mezzo. Ho mandato subito una mail, insomma, ma anche no. E magicamente il giorno dopo risultava tutto già attivato, il modem in consegna. Ah, viene il tecnico, sì sì, subitissimamente viene il tecnico, già chiamato Telecom per l'allaccio, già pronto tutto. Il giorno dopo della mail. Per cui c'era anche questa cosa prima. Che bizzarria, cioè, insomma, vabbè, sei finito nella classica burocrazia all'italiana praticamente. No, però devo dire che questa cosa mi è successa. Allora, questa cosa che ho Fastweb. Allora, io quando Simone mi ha chiesto cosa ne pensi di Fastweb, io ho detto: attento alle querele, Io sono detto, stato. È una merda, no, non farlo. Sono stato abbonato. Ok, allora corro a farlo. Sono stato abbonato per 15 anni a Fastweb. E fin tanto che. Oh, ci saluta in chat Michela De Paola. Ah, ciao, Michela De Paola. Chi è? Non so, è quella che apre le porte e chiude le porte. Lo spirito. Sono stato abbonato per 15 anni a Fastweb, sia a Roma che qui a Monterotondo. Fin tanto che non c'è un problema tecnico, Fastweb è una spada. Quando c'è il problema tecnico, è la fine. Tant'è che noi in ufficio abbiamo provato a fare il passaggio da Telecom a Fastweb, proprio perché io ero troppo contento di Fastweb. Quindi abbiamo fatto questo. C'è una chiamata, ci chiamano. Chiama, rispondi. Posso rispondere io? Sì. Vado? Vai. Pronto? Secondo me devo fare qualcosa. Pronto? C'è gente che dorme. Ma cioè, oh, mi scusi, che la signora del piano di sopra. Attenzione, abbiamo la Sora Cecioni del piano di sopra. Buonasera, Sora Cecioni. Vabbè, ma non chiami i carabinieri, che non c'è bisogno, signor. Che mo chiami i carabinieri? Ma signor, ha scorreggiato una volta sola. Avevo detto che fino a 3 se poteva. Secondo me la puzza questa era tosta. Chiedete Gusella, fatelo star zitto, sta raccontando dei. Ma scusi, signora, ma lei che ne sa che si chiama Gusella? Allora lei ci ascolta. Ah, lei è quella della chiamata finta di Fastweb, la riconosco. Ah, è vero. Parla ecco un po'. Perché sa il mio nome vero. Ma non era quella che stava a fare pulizie qua l'altro giorno? Mercedes. Fa tutto questo. Vabbè, attacca. Attacca. E poi soprattutto non ha detto a stronzi. Butta giù. Attenzione, questa la riconosco. Attenzione. Io sto per terminare la chiamata. Sì, esatto, c'è anche la denuncia sindacale. Vai, riattacca in faccia. Sì, addio. Oh, intanto Piergi dice: sembra il palazzo dei burocrati di Asterix. E infatti servirà a lasciare passare a 38 per far funzionare sta benedetta DSL. Comunque io stavo raccontando che in ufficio ho fatto il passaggio da Telecom a Fastweb. Che cosa è successo? È successo che Telecom, giustamente, quando è il giorno X, stacca la linea. Però al giorno in cui Telecom ha staccato la linea, Fastweb ancora non se l'ha fatta vedere. E allora io telefonavo a Fastweb e dicevo: scusate, ma noi da oggi abbiamo la linea disattivata e dovrebbe subentrare a Fastweb, che è successo, qual è il problema? Sì, lo sappiamo, frega un cazzo. No, stiamo segnalando la cosa al tecnico in modo che si sbrighi. Vabbè, ma cioè, vi sembra una cosa normale? No, tecnico, ma... signor, guardi, dovrebbe andare lì alla casa via Cazzo Imperio a fare... Ma magari fosse così. È peggio. Ho scoperto che la cosa era peggio. Dopo diversi giorni, ogni giorno io telefonavo. Che poi sta roba è durata un mese, ragazzi. Perché c'avevi il numero del tecnico o il numero di Fastweb? No, quello di Fastweb. Perché stare un mese senza linea in ufficio è una cosa da niente. Esatto, infatti è stato un danno abbastanza incalcolabile. E poi, vabbè, in qualche maniera avevamo risolto roba del genere. A un certo punto io telefonavo tutti i giorni a Fastweb. E Fastweb diceva: mandiamo la segnalazione al tecnico. Non un certo punto mi sono incazzato, ho detto scusate, ma mandate una segnalazione al tecnico, me la avete detto tutti quanti i giorni, ma come gliela mandate questa segnalazione al tecnico? Chiamatelo, colpiccione? Contattatelo, fate in qualche modo, no? Cioè, noi mandiamo solo la segnalazione telematica, ossia un messaggio elettronico, cioè una mail, quello che è, insomma. Io ho detto ma scusate, ma se questo è morto, mettetevi l'ipotesi, no? Questo è morto, l'unico tecnico che gestite voi, che gestisce Monte Rotondo, è morto. E voi continuate a mandare mail. A voi che cazzo ve lo dice se questo è morto o non è morto, ad esempio? Perché puzza, può essere benissimo morto, chiaramente, no? Cioè, scusa, allora ti rispondo: beh, se è morto perché è normale che non ti attaccano la linea. Scusa, chi te l'attacca? L'ha ucciso Pizzi in preda all'ira, ovviamente. Ma magari fosse venuto per piare botte, perché poi alla fine uno gli avrebbe anche date. E questi mi dicevano: io ho detto, cioè, non è possibile una compagnia nazionale come voi non c'ha un piano B. Cioè, quando vedete una linea in attivazione un mese, comunque vanno sia rimborsato che è dato subito il via libera per il rientro a Telecom senza nessun problema. Devo dire quindi alla fine ti sei dovuto arrendere, cioè, sì loro non sono riusciti a risolvere il problema. Devo dire che i tecnici, questa è una cosa veramente raccapricciante, i tecnici sono un'azienda esterna che viene probabilmente incaricata da Telecom, che è la proprietaria della linea. Esatto, spieghiamo una cosa per i non eretini: a Monterotondo l'ultimo miglio è tutto solo di proprietà di Telecom, quindi gli altri operatori rivendono in quella che si chiama modalità wholesale l'ultimo, le terminazioni su rete Telecom, quindi comunque finché Telecom non fa uscire il suo tecnico, gli altri poi in centrale non ci possono entrare. Quello è il vero problema. Quindi Telecom, come in tanti altri comuni d'Italia, fa il bello e il cattivo tempo. Non so se è tristezza. Che sì, no, ma cioè, in effetti a me è veramente la cosa sconcertante. Io ho detto, cioè, una compagnia nazionale che perde un cliente, vabbè, ok, a voi tra milioni di clienti non ve ne frega un cazzo, no? Però, cioè, è ammissibile che voi perdete un cliente perché non ci avete un piano B sul come contattare il tecnico e capire qual è il problema. Perché sai qual è il problema, Simone? Cioè, che queste aziende non sono aziende, come dire, artigianali, in cui chi ci lavora si preoccupa del singolo cliente perché ne va della sua attività. Sono carrozzoni burocraticizzati in cui la gente che ti risponde al telefono, ma che gli frega loro, il loro stipendio gli arriva lo stesso. Comunque ricordiamo il numero 06 56 56 3 9 5 7 1. Allora, il Napoli ha segnato, quindi a Parigi, Paris Saint Germain 0, Napoli 1. Ah, bene, quindi 06 56 56 9 5 7 1, e anche voi raccontateci le vostre disavventure dal punto di vista delle attivazioni delle utenze, perché poi questa di Simone ancora non è che è finita, perché domani viene il tecnico, troppo facile, viene il tecnico senza modem, de fast web, senza modem, perché poi modem, a meno che non lo porta lui il modem, ma quindi la linea funziona, quindi magari inizierò anche già a pagare, però nel frattempo mi deve arrivare il modem. Quello non è detto, mi sa che ti devono fare la telefonata di verifica prima di... Però su questo fast web io te devo fino dire a quando non c'è l'allaccio del circuito, diciamo, su questo fino a fast quando web il tuo modem precisa, non sia autentica, cioè, però la cosa strana è che il modem generalmente arriva prima del tecnico, perché il tecnico si presuppone di che solito comunque... sì. Ma siccome ho fatto questa mail e magicamente il giorno dopo risultava già tutto attivo, tutto in spedizione, praticamente si sono ritrovati a spedire il tecnico e a contattare... Hanno spedito il tecnico e il modem viene da solo, ho capito. E il modem viene ad installare la linea, sì. Mi sa di aver capito tutto qual è il problema, in realtà i 65 giorni erano perché sono finiti i modem. Ah, può essere, sa? Può essere. Però pure Gualdi pensa che c'ha avuto qualche problema in ufficio, tipo roba del... No. Sono anche addirittura venuti a riprendersi un vecchio modem che avevano sostituito. Almeno io so che pieno di modem. E ci hanno tenuto a ripiarselo. E aspetta, ma qual era il tuo? C'era una torre di Hanoi di modem. Aspetta, ma qual era il tuo? Pieta un po' uno. Ma scusa, pure tu. C'era una storia che quelli avevano attivato, ma non avevano attivato. No, questo era un Colt Telecom che vantavano un credito secondo loro di 14-15 mila euro con noi. Così, niente. Insomma, perché abbiamo fatto semplicemente un passaggio di gestore. Quindi no, ci dovete pagare le penali? Sì, certo, va bene. Intanto ancora ci chiamano, probabilmente qualche povero sfigato ha comprato questo presunto credito da qualcuno che a sua volta l'ha comprato qualcun altro che a sua volta gliel'ha venduto. Che mio nonno al mercato comprò. Sì, che poi voglio dire, questa è una cosa che mi fa ridere, perché pure a me mi arrivano, mi telefonano, ah, lei deve mandatemi una raccomandata. No, ma lei abbiamo mandato, non mi avete mandato niente, perché se mi avete mandato lo sapevate, ma avete mandato. Dice, no, allora lei deve dare, adesso glielo scrivo per mail. No, non mi devi scrivere per mail, mandami la raccomandata. No, ma io adesso guardi. E poi c'è stato un periodo che se c'è una cosa, questi qua, quello che sanno fare, fa veramente i stalker. Questi telefonavano 4-5 volte al giorno per perché tu dovevi dare X soldi a Vodafone, magari, che poi Vodafone l'ho risolta in altra maniera, tra l'altro, la questione in sala, sono presa pure doppiamente nel culo. Però questi telefonavano, no, guarda che è... Aspetta, spiegami questo tecnicismo. Un culo. Prendo appunti. Culo. Ovviamente, però. Io vedo che, ragazzi, voi parlate fra di voi in chat, però adesso utilizzatelo questo fantastico strumento che abbiamo di aprire le linee telefoniche. Vai, 06 56 56 9571, dai, che sennò mi incazzo. Io sto vedendo questa foto di Martin Scorsese che fa un soffocone al Papa, sono preoccupatissimo. Cioè? Lascia stare. No, vabbè, cose bruttissime. Ma perché? No, vabbè, praticamente Martin Scorsese durante il sinodo ha incontrato Papa Francesco. E sostanzialmente si è inchinato per baciare l'anello, così, e questa foto ma gli è sfuggito leggermente fraintendibile. Va bene, andiamo avanti, dai, che insomma Scorsese c'ha anche un'età, porello. Un po' come la foto della suora col microfono. Non so se l'avete vista. No, ma so che tu ce la farai vedere, quindi... Sì, beh, esattamente, okay. Esattamente. Ma andiamo avanti, allora. Quindi domani aspettiamo l'arrivo di Fastweb sotto tutti forma... insieme alle 7:30 sotto forma di persona o modem. Qualcosa arriverà. Una delle due, sì. O anche entrambe, modem. Chissà, chissà. E pensa che bello se suona il citofono, lui risponde e si sente... Ah, come dei vecchi tempi, no? Esatto, beh, in tal caso in casa mia non entra perché sono troppo lento. Ma la cosa migliore, scusate, abbiamo interisti qui? Abbiamo interisti in chat? Sto prendendo il culo? Eh sì, aia, dal Barcellona. Vabbè, purtroppo succede. Mai andare a Barcellona. Mai, io sono sempre contento che il nostro amico De Vrij, insomma. Mandevrai, se la cosa non più bella l'hai. Domani sarebbe che arriva il tech, che arrivano in contemporanea tecnico Vodafone e tecnico Fastweb. Sarebbe fantastico. Salutiamo intanto Roberto Marin che ci ha raggiunto in chat, Roberto. E anche Monica Emese Sos. Emese Sos, che dice è? Bravi, grazie. Ma ciao Monica. Chi sei, Monica? Te conosco io. Brave. Ma le donne sono tutte amiche del Guardi. Guardi che porta pubblico alle nostre fantastiche porto trasmissioni. Pubblico femminile, sennò poi dopo smettono. Ovviamente, perché c'è. Ma anche con te smettono. E sedano. Esatto. Fanno anche donne, bene, sappiate insomma. Che Marco vi usa come oggetti, quindi lasciatelo perdere. Per avere il pubblico, giustamente. Esatto, solo per fare audience. Che tipo di oggetti? Oggetti audience. Tra l'altro oggi si è fatto un grandissimo parlare, soprattutto in alcuni gruppi Telegram, della fantastica uscita anche in Italia e finalmente in italiano di Alexa. Sì, io ne ho già presi tre. Avete mai provato a chiedere Alexa quando arriverà? Chi di voi lo prende? Io ne ho già presi tre. Poi lo prende. Perfetto. Cosa? Ma perché ne ha presi tre? Così uno lo mangi. Sì. Esatto, no, ma la cosa bella è che devi provare assolutamente per vedere se funziona così anche in Italia e chiedi ad Alexa se Google... collabora con la CIA. Con la CIA, sì, esatto. Perché è una cosa bellissima. Si spegnerà in quel momento. No. Allora, se tu in inglese, nell'Alexa inglese. Ma tanto Alexa è Amazon, quindi. Amazon. Io mi sono sbagliato, è Amazon. Se tu chiedi ad Alexa in inglese, Alexa, Amazon collabora con la CIA, si spegne. Sì. Si resetta, perché non può rispondere, perché se risponde di no sarebbe falso. E allora Amazon lì in quel caso potrebbe trovarsi in futuro in problemi tecnico-legali, perché ha fatto in modo che un prodotto mentisse. Comunque non dica una Roberto ricata. Marin ci dice che lui è scettico su Alexa perché non è Apple, diciamo, perché se era di Apple la prendeva subito. Certo. Su Echo, che non so cosa dire. Ecco. Certo. No, comunque al di là di tutto, allora io... Ma scusa, mi spiegate una cosa. Io sono sempre dell'idea di quello che diceva Walter Vannini su Data Nightmare proprio oggi, che in effetti tu dici vabbè, ma questi dispositivi tu ti metti dentro casa, questi c'hanno orecchie, c'hanno occhi e se fanno i cazzi tuoi, e questo è assolutamente sacrosanto, lo sappiamo che è così. Però poi oggettivamente adesso, a meno che non c'è un sistema di domotica avanzato dentro casa, cioè, ma qual è Simone, io qual ti è posso, lo scopo? Io ti posso dire questo. Ti senti meno solo? Sicuramente. La carezza, Alexa, bella. Ti posso dire una cosa. Allora, premesso che io ho quello di Google, lo chiamo il Googleino, il Google Mini. Non tanto perché, per carità, è incuriosito, ma ce l'hanno regalato, quindi Vale non l'ha voluto sapere. L'ho montato io a casa, ok. Al di là del fatto che io non lo voglio. Di utile non ce fai veramente. Sì, Vale quando arriva a casa lo spegne. Però al di là del fatto che è veramente utile, che ancora non sono un po' paranoica, no, vabbè, ma lo fa così, ma non è perché però, fa per simpatia, esatto. Simpatico, no, in realtà risparmiare io corrente. Non ho trovato nessuna utilità veramente pratica, Però l'unica cosa posso dire, sì, è vero, quello sta sempre lì in ascolto, ma l'unica cosa che Google di per certo sa di me è quante volte al giorno rutto in camera da letto, perché per il resto e magari sanno da, l'uomo silenzioso, e sanno dall'audio cosa guardo su Netflix, ma più di quello. Beh, invece ci sono già abbastanza informazioni. Comunque lo puoi anche silenziare, cioè almeno Alexa. Sì, lo spegni. Puoi, puoi spegnerlo in modo che non possa anche staccare la corrente. No, a parte se la corrente, ti senti minacciato, puoi anche staccare il computer. C'è il pulsante per mutare il microfono, che secondo me il cellulare, buttarlo nel bar. Puoi anche tagliare in due la carta di credito. Se non è che, no, non spegni il microfono, spegni l'ascolto, cioè lui non ti sente. Che poi, secondo me non è vero. Ah, probabilmente ti sente e fa finta di no. Esatto. E tu, secondo me gli devi fare trabocchetto. A un certo punto, quando meno se l'aspetta, fai Alexa? Chi? Io? No, non mi devi sentire, capito? Vabbè, comunque, niente, vabbè, che se, cioè, allora, perché oggi c'è stato uno sul gruppo di Tecnopills che diceva, a me neanche se mi regalano, perché io ho sto merda, e vabbè, a me come dice Rizzard, ehi Google, play YouPorn on main TV. Allora, sì, si potrebbe fare, io in realtà a casa ho un po' di cose domotiche, perché ho le lampadine di Ikea, ho la Chromecast, per cui volendo posso accendere e spegnere le luci chiedendoglielo, posso far partire lo streaming sulla Chromecast, quindi Netflix sul televisore chiedendoglielo, ma fai prima a farlo a mano, e questa figa è la cosa inquietante. Ci metti 3 minuti a fare una cosa che con un pulsante fai in un secondo. E poi la cosa è che logorroico. Però venite a fa come Jean-Luc Picard. Allora, quando questo ci scherzavamo sempre con Rizzard, perché anche lui condivide con me questa utilità. Quando Google o gli altri permetteranno di attivare degli alias personalizzati per OK Google, allora sarà divertente. Perché quando io potrò dire Marco, accendi la luce, allora sì. Ma finché gli dovrò dire OK Google, accendi la luce, non mi piace. Brutta maiala. Rendiamo ancora più inutile una tecnologia inutile, insomma, questa è la cosa. Brutta maiala, dammi le notizie di oggi. Se me lo regalate, io non ciao, sono brutta maiala, il tuo assistente personale. Non m'offende, cioè, nel senso, non faccio come il nome, neanche se me lo regalate. A me, se me lo regalate, io lo uso. Cioè, è un messaggio sottinteso, capito? Esatto, regalatemelo. Quindi quello piccolo, quello da 5 euro. 60 euro. Gli prendiamo quello cinese. Exio, che tu gli parli, e quello da ciao Simone. Hai detto Simone? Perché sapete che Siri mi chiama Simone? Ti vedo. Nel frattempo, comunque, passano decine di migliaia di dati al servizi cinesi, insomma, che devono sapere tutto. Esatto. Ma volete invece, a proposito, avete mai provato a chiedere? E poi, Google... secondo me, l'intelligenza artificiale cinese non sa pone il problema di mentire, cioè quello che dice. Ma tanto sono tutti uguali, no, cosa devono cinese, spiare? Non capirai mai, quello è il bello. Tu gli dici intelligenza cinese, tu che fai? Dai le informazioni al governo cinese? No, certo. Certo. Dice sì, anche tu. Come anche io. Comunque, sono comunque vogliamo leggere un po' la chat. Pier G ci domanda, ma nessuno continua a chiamare allo 06 56 56 9 571. Quando noi diciamo pronto, voi dovete dire a stronzi, sennò no, vabbè, ora l'abbiamo già fatto, adesso li attacchiamo. Dai, facciamo interagire. No, volevo leggere in chat. Pier G giustamente introduce un argomento dicendo collaterale, che quello che Pier G scrive sulla chat ce lo potrebbe dire al telefono. Esatto, ci dice, ma i pulsantini di Amazon che ti ordinano in automatico i prodotti, ah, li vogliamo parlare. I dash, sì, i fustini del dash, non dash ho avuto, button, ma dash a parte button. Che non li trovo particolarmente utili, ma insomma, no, in effetti quello è veramente lì siamo proprio all'eccesso di inutilità. Cioè, tu immagina che c'è veramente le più valenti della toiletta automatica, esatto. Del bidet integrato, esatto, quello con la manina, cioè neanche la mano per lavarti il culo sì. esatto. Tu c'hai tutti questi bottoni attaccati al frigorifero, secondo me li spingi così a casaggio, perché se hai bisogno dei bottoni per ordinare una cosa, secondo me non sai neanche se ti serve o no, e ti arrivano 10 pacchi di birra. Io ho premuto 4 volte birra, ma nel frigo non c'è un cazzo lo stesso. Ma come funziona sto teletrasporto? Però tanti soldi sono diminuiti. Funziona così. Mamma mia, come sei laconico. Ed è... Beh, ma per la birra come sono sei soldi materiale. Ben spesi. Cioè... sì, ma senza averlo mi rode un po'. Capito? Vuoi una birra? Ci abbiamo le birre di là. Così chiamiamo la signora Cecioni. Le birre. Ma scusa, non abbiamo il contrario, cioè non possiamo chiamare per telefono. Facciamo il contrario, chiamiamo noi. Proviamo che succede. Vai, la signora. Allora, aspetta, voi intanto parlate. Sì, tu intanto. No, vabbè, poi dicevo, nel frattempo Leo Vargon ci dice: chissà se chiedendo ad Alexa ti faresti Google Home, la risposta sarà lì mortacci tua. Questo non lo so, però se vuoi fare un giochino divertente, prendi Google Assistant e chiedigli: Google, cosa ne pensi di Siri? Prova, però provate, magari lo facciamo. Sta baldracca. Vabbè, abbiamo fatto dovrebbe mille volte questa qualcosa cosa. Del tipo Siri è la miglior Siri, io sono il miglior assistente Google. Ok, Google. Cosa ne pensi di Siri? Messaggio gratuito. La chiamata non può essere completata. Allora, quanto è diventato politically correct? Ha detto: ho sentito parlare bene di Siri. Non possiamo fare la telefonata perché non ho caricato. Che schifo. No. Che pietà, pena e compassione. Dai, proviamo. Posso fare la telefonata normale? Proviamo la nostra bellissima rete Iliad. Vediamo come funziona così in diretta. Dai. La Pirliad. Sì. Iliad. Che poi, cioè, questa cosa secondo me gli si torcerà contro. L'Iliad è diventato un'odissea. Aspettate, che ci abbiamo chiamato anche una puntata. Sto chiamando. Aspettate, perché questa è una cosa importante. Ciccioni, poi sai che. Squilla. Secondo me la signora Ciccioni sta. Squilla. Se ha paura, risponde. Ma non trova il telefono, cosa più probabile. Potrebbe. Oppure un attimo fa ci stava ascoltando. Servizi di segreteria. Forse ci sta ascoltando, lo sa e non risponde. No, è bella sta cosa che secondo me non sa dove ha messo il telefono. Questo è. Sì, è ok, cosa... Google. Ci ha chiamato, dai. Dov'è il telefono di Paola De Michela? De chi? E non possiamo dire le identità vere alla radio. Ma che bella trasmissione, comunque. Ok, Google. Non chiama Michela De Cade. Vedete la tecnologia al servizio dell'uomo quanto è scomoda. È che l'uomo non ha il servizio della tecnologia, il problema è quello. Attenzione. Entrano dentro lo studio i carabinieri, attenzione. No, sta caduto. Che ci porta le birre per cortesia, Mercedes? No. Brava, ribellati. No, perché si dice Mercedes. €100. Ci sarebbero ancora gli straordinari di aprile, gli straordinari di aprile. Sì, quelli poi dopo col calma. Comunque salutiamo Roberto Marin che dice: vi saluto, porto i bimbi a nanna. Giustamente è un lavoro, ma col bravo, bravo. A proposito dei bimbi, ma sapete che lo voglio il bimbi, me lo regali? Allora sì, ne stavamo parlando questa sera a cena. A Simone devi regalare il Google Home, a me puoi regalare il bimbi. No, io non voglio il Google, io voglio Alexa. Ah, vuoi Alexa? No, non voglio il Google Home. Se la potete fare Google una cosa molto simpatica, come è successo alla. Come mai quello di Google Home? Perché, scusate, perché la porta dello studio perché è aperta? Ci devono portare la beverata. Ho capito, magari. Entra la luce fastidiosa. Noi siamo delle creature delle tenebre. Se volete dei bimbi, dei bambini, potete fare come è successo a un nonno. Vedi che l'ascoltatrice se n'è già andata comunque. Ma fa bene, giustamente. Chi lo fa fare? Ma chi te lo fa fare, Monica? Chi te lo fa fare? Però sento dei bicchieri tintinnare. Che è successo praticamente? L'istituto comprensivo Alcide De Gasperi a Sant'Antonio praticamente è successo questa cosa. Una bimba di 6 anni è stata prelevata giustamente all'uscita dal nonno ed è stata portata via. Quindi come succede in qualsiasi centinaia di migliaia. Sì, normale. No, solo che praticamente questa bambina era nipote di un altro. Era figlia di un altro, praticamente lui si è acchiappata. La prima bambina. Figlia di un altro, gli hanno detto. Figlia di un altro. A chi si fia? Perché così, giustamente, il nonnino poteva fare cose che con la propria non poteva fare. No. Sempre a pensare. Comunque non poteva farle, penso. Era troppo nonno, dici. Era un po' troppo nonno, ma comunque c'aveva 66 anni. Era ancora un virgulto, insomma. Un virgulto. Lui praticamente si è acchiappato questa bambina e dopo chissà quanto si è reso conto che non era. Ma tu chi cazzo sei? Guardate, lui ha fatto. A chi si fia? Praticamente gliel'ha riportato dietro. Nel frattempo la madre l'ha chiamato carabinieri, vigili urbani, vigili. Ma scusa, fuoco, nel frattempo al di là del rincoglionimento senile precoce a 66 anni, ma nel frattempo sta pseudo nipotina, che nipotina non era, non ha battuto ciglio. Probabilmente piangeva. Bene gliel'hanno insegnato i genitori. Stai zitta. Ma non piangi, ma andiamo da mamma. Ma ci andiamo da mamma. Quindi probabilmente è una cosa del genere. Ma poi la mamma è morta? No, la mamma di bestemmie, morta, sì. Stava, ha fatto morire di bestemmie. Comunque voglio precisare, per dare informazioni di servizio, che praticamente il nostro numero è il numero gratuito in tutta Europa occidentale. Quindi, insomma, se volete potete chiamarci allo 06 56 56 9571. In compenso la nipotina giusta, che stava con la madre disperata, ha detto: non ci faccio a caso, mio padre, mi nonna rincoglionito. E poi fino a più o meno così. Storie tristi che vengono dal mondo. Molto molto tristi. A voi è capitato di perdere qualcuno? Non qualcosa, qualcuno. O di scambiare le persone e portarvi, che ne so, in macchina, o entrare dentro le macchine di qualcuno. Allora, che no, pensavate fosse un vostro amico, invece puff. Io però posso raccontare la storia di un mio conoscente. Io posso raccontarne una mia dopo. Non posso fare troppi riferimenti perché non sarebbe carino. Però fatto sta che tanti anni fa frequentavo un forum. Era soliti periodicamente, come succede anche qui in radio, c'era fare i raduni. Era il forum di cazzi mosci. I raduni di utenti. Ad un raduno di utenti parteciparono vari, tra cui un mio conoscente di Roma e una ragazza di Bergamo, che lui sostanzialmente si rimorchiò. Questa era una persona che già sul forum era abbastanza... Scusa, com'è la rimorchiata sostanziale? No, se la bellissimo, Pizzi che cerca di versare una birra chiusa, qualcosa che mi porge il tappo, Pizzi. Levalo, vedi che sta scuotendo la bottiglia in aria. Ragazzi, guardi, stasera finisce le botte. Ragazzi, ci dovrebbe essere la diretta video, perché c'è Pizzi che porge questo prepuzio a Gualdi, come se fosse tipo, sgrullamelo. Che scena dritta. Tasci tu, se buona un po'. C'è gente che dorme. Scusate, c'è gente. Ma dove? Da qualche parte. Così partecipi alla trasmissione se devi entrare. No, in studio. Sicuramente qui sopra c'è la stanza dei bambini. E sti cazzo dei bambini, vero, bambini. Ma sono i bambini giusti almeno. Chi può dirlo? Secondo me quello ogni tanto se sbaglia ne prende qualcuno a caso. Tieni, bevi la birra. No, mi fa schifo. No, quella li lascia in giro per strada. Lei spera che vengano presi. Beh, io comunque raccontavo questa storia di questo tizio che insomma si rimorchiò questa ragazza che già sul forum era famosa per essere un tipetto con un carattere un po', come dire, diciamo così. Beh, morale della favola, l'ha lasciata in autogrill. Beh, ma davvero l'ha fatto, l'ha proprio mollata, l'ha fatta scendere, l'ha lasciata lì. Io se avessi avuto la patente l'avrei fatto pure io prima o poi a qualcuno, insomma. Sì, anche io se avessi avuto la ragazza l'avrei fatto. Il silenzio è incombuto. Questo se l'avessi avuto che ha lasciato. Facciamo una cosa, organizziamo un attimo il resto della trasmissione, un secondo, e lanciamo un brano. Guardi, ti faccio. No, adesso ci chiamano. Sì, stai chiamando. Vai, rispondi. Non so come si rispondi. Pronto, no? Pronto. Astronci! Ecco. Ma apposta, finita. No, fantastico. Questo oramai diventerà una tradizione meravigliosa. Che poi a cazzo di cane, così. In realtà questa ce la portiamo dietro da Radio Cazzo Imperio. Te lo ricordi? Radio Cazzo Imperio a Roma. Sì, sì, ma però lì non ha mai funzionato. Invece qui funziona. Perché Ciccio Bombo diceva che lui. Che non si poteva fare questa cosa. Non si poteva fare. Vabbè. Guardi, lancia il brano. Money for Nothing, The Dire Straits. Fantastico. Ancora. Ma io infatti mi ricordo che l'abbiamo già usato, l'abbiamo già messa, però è bellissimo sentirla in eterno. E infatti, ciao. Io mi ricordo che l'abbiamo messa sta canzone perché in realtà l'altra settimana, mentre che l'ascoltavamo, anzi ritornando proprio in diretta, dicevamo che queste erano le canzoni che sentivamo quando eravamo ragazzini. No, ma il segreto è che ancora quella dell'altra settimana che non è finita. Infatti, esatto, bravo. E c'è la terza parte fra un pochino, se volete. Esatto, più tardi dopo la rimettiamo. Basta, sta musica da vecchi. I Dire Straits. Però, cioè, vogliamo Young Signorino. Quanto erano lunghi, insomma. Vogliamo qualcosa di fresco. C'era uno sto amico mio che sempre con queste cassette dei Dire Straits. E praticamente è stata un'estate che era la colonna sonora di qualsiasi paccata, come dice Sbano. Sì, ma io ero molto più umile, si paccava con Ligabue, però vabbè. Dicevo, Pizzi, tu che sei un tuttologo anche sportiveggiante, no? Ma se dovessi leggere in diretta il risultato della partita del Liverpool, che sta vincendo 2-0, no? Come chiameresti l'avversario? Shrena Zveda? Shrena Svetlana. Shrek l'orco, ok. Esatto, esatto. Vogliamo dare una veloce scorsa delle partite di Champions? Dai, dai. Lokomotiv Mosca 1. Aspetta, aspetta, aspetta, perché tu l'angolo dello sport. Tu mi sei capito? Scusa. Prendiamo tempo che sta cercando. C'è qualcosa che non va su, sì, si interrompono gli asset come se. E c'è qualcosa che non va sull'hard disk. Allora, posso far andare lo stesso? Si è scassato l'hard disk. Ecco. Così, cioè lui sta fermo. L'angolo dello se ci va di sopra. Non si sente un cazzo, dai. Vabbè, vai. Lokomotiv Mosca, Porto 1-2, Barcellona 1, Inter 0, Liverpool batte Srena Zedra 2-0. Galatasaray, Schalke 04, 0-0, Borussia Dortmund 1, Atletico Madrid 0, Paris Saint-Germain 0, Napoli 1. Quindi credo che Napoli sia l'unica squadra che sta vincendo fuori casa. Interessante, interessante. E poi ce ne sarebbero altre, però vabbè. Ma non ce ne frega niente. Ce ne frega già neanche del Napoli, figura del. Ce ne frega neanche di quello che abbiamo. Guarda che abbiamo ascoltatori campani, non li puoi distrattare così. Se questi ascoltatori campani fossero veramente dei tifosi di calcio, sarebbero qui con noi, ma chi lo farebbe fare? No? State in campana, eh? Ci dice Lucio Plantone, mettete almeno love over gold e ce lo segniamo per le prossime. Dipende, se dura meno di 5-10 minuti, no. No, infatti a noi ci piacciono i brani solo lunghi. A proposito, lunghi. Poi ne parleremo ci piacciono nelle lunghi. Puntate. Sapete che stiamo organizzando il torpedone per andare ad ascoltare i Tool tutti insieme a Firenze. Ma peccato che ci andrete solo voi perché non abbiamo soldi, quindi... Esatto, nel torpedone noi non ci saremo, però insomma no, cioè nel torpedone lo facciamo perché cresta su uno, cresta sull'altro, ci avanzano i soldi pure per noi, insomma, questo. Ah, è... ottima idea, tipo agenzia giusto, viaggi, giusto. Runtime viaggi. Runtime. Scusa, viaggi. Lo fa radio, non lo possiamo fare ve anche noi. Ve costa caro, ma ve la godete tutta. Io intanto devo fare un annuncio tecnico, dalla prossima settimana, purtroppo o per fortuna, all'interno di OGM saranno inseriti degli spot pubblicitari, perché chiaramente è un ennesimo passo avanti di Runtime. Dobbiamo, purtroppo, per sopravvivere. Esatto, è un ennesimo passo avanti, la radio si commercializza e faremo dei redazionali, ci saranno anche degli spot pubblicitari appositamente costruiti, insomma, quindi questa è una cosa che dovete sapere, è importante. E quando li ascolterete, brutti bastardi, cacciate i soldi. No, perché scusa? Così, sempre bello. Quelli dei... No, brutti bastardi, no, solo bastardi. Bastardi. Esatto. Comunque io direi che io metterei un brano. Mettiamolo uno lungo. Ci dice comunque Lucio Plantone che il brano Love Over Gold dura parecchio. Però bisognerebbe sapere che significa dura parecchio. È duraturo. È un po' come l'uomo che dice: Madonna, ma sei duro parecchio. Che significa? Lucio, se tu tramite Telegram mi mandi l'MP3, la mettiamo. Gusella, tu che sei un Latin lover, meglio duro parecchio o meglio parecchio duro? Meglio tutte e due. No, devi scegliere. Così è troppo facile. Allora duro parecchio. Meglio duro parecchio. Allora è meglio una panza calla in culo o un culo gallo in panza? Come si dice a Roma? Questo è importante, eh? E se ci rifletti troppo è pure pericoloso. Esatto. Non ho capito. Vabbè. Se fa presa di non capire. A proposito, c'è amore, c'è anche love. Un po' di devo chiederla a Guido. Ti ricordi Pizzi che 3-4 settimane fa, prima che morissi e risuscitassi, hai raccontato quella storia zombesca? Sì, fai un assuntino veloce da 40 minuti, dai. Ma praticamente, a quanto pare, cioè nel senso, noi abbiamo raccontato questa storia di questa ragazzetta molto giovane. La bambina, dai. Quella ragazzetta molto giovane, sì. Quella ragazzetta molto giovane, insomma, quella bambina, la teenagers che non riuscì, cioè, no, non lo sappiamo se non è, però aveva questo rapporto con una bambola zombie. Era fidanzata con una bambola zombie. Tra l'altro anche abbastanza raccapricciante, ci raccontava. Insomma, vabbè, era brutta, però un po' raccapricciante. La bambola zombie. Lei era brutta, non saprei definire. Io non sono sicuro di quale fosse la bambola e quale fosse lei. La bambola, se era una bambola zombie o meno. No, come perché, no? No, perché quella è una bambola decomposta, che poi fosse zombie o no, o semplicemente cadavere. Non giusto, è una bambola cadavere. Però siccome che era un vero cadavere, non era però una bambola. In realtà, siccome che la bambola di per sé rappresenta comunque un essere vivente, in teoria, no? Un ex essere vivente. Il bambino vivente, Ciccio Bello non è la bambola di un morto, è la bambola di un bambino che vive, no? E quindi pure la bambola del cadavere, lì era il cadavere vivente. Non a caso lo slogan Ciccio Bello è rompicoglioni come uno vero. Ecco. Beh, e niente, praticamente questa ragazza che iniziava a sviluppare anche un rapporto anche emotivo, sentimentale e anche sessuale verso sta bambola zombie, ma sappiamo che perché poi noi ci documentiamo, la nostra ricerca antropologica va avanti, e sappiamo che questa bambina non c'è c'è un altro personaggio a cui questa bambina gli spiccia veramente che pure questa, se è questa qui, è quella lì. Allora, poi magari in qualche modo poi si spiegano un po' le cose, esatto. Perché... allora, c'è questa donna, ragazza giovine, che si chiama Amethyst Realm. No, ripetilo, perché il tagging secondo me non tagging. Amethyst Realm. Cioè, praticamente reame di amatista. Di amatista. Okay. Cioè, praticamente un personaggio di Final Fantasy. Aspetta, è Game of Thrones, dai. Game of Thrones. No, secondo me è più giapponese questo, più Final Fantasy. Praticamente ha detto che 11 anni fa ha deciso di smettere di avere rapporti con gli uomini in carne ed ossa. Ah, beh, è diventata lesbica, succede. No. Ha cominciato a fare sesso con i fantasmi. Certo. Capito? Nel senso che è plurivedova? No, non lo so, dice che comunque adesso ha una relazione piuttosto seria con un essere incorporeo. Attenzione, e spera che ci sia anche un modo. No, aspetta, vibratore non vuol dire incorporeo. No, quello è il massaggiatore colorato. Esatto. Spera che ci sia anche un nuovo inizio per una famiglia, insomma, di cominciare qualcosa di Scusa, guardi, devo fare una cosa, un secondo. Non fa partire il video. Mentre che... No. Però... Ma io intanto sto leggendo la notizia, posso leggere un estratto? Vai, leggi. Vorrei leggere la parte della sua dichiarazione io, perché ci tengo. È stata molto bella, se pizzi... Ma ci sono delle esigenze... Vabbè, io intanto introduco, durante un viaggio in Australia, giusto, no? Esatto, ma la frase la leggo io, perché... Afferma di aver incontrato... quello che ora sarebbe il suo fidanzato. Amethyst afferma che lo spirito è tornato con lei nel Regno Unito e che 6 mesi dopo il loro primo incontro. Attenzione, da illegale. Non ho i documenti. È migliorato. Però dopo 6 mesi dal loro primo incontro il rapporto tra di loro è ancora saldo e forte. E dice: mentre lei non è in grado di vedere il suo amante spettrale, è in grado di comunicare con esso e anche impegnarsi nel rapporto sessuale. Amethyst dice di non essere in grado di dire con certezza se il fantasma sia maschio o femmina, però c'è una minchia tanto. No, ma fermamente convinta che la connessione tra due sia autentica. Assolutamente, anche io non sono convinto. Mamma mia, un ragazzi. Giorno. Ascoltate. Qui dopo, cioè, lobby, richiamaci, perché no, qui c'è da parlare di questa cosa. Stavo camminando attraverso la boscaglia, godendo della natura. Già qui, vedi, questa vuole godere. Improvvisamente ho sentito questa incredibile energia. Sapevo che era arrivato un nuovo amante. Cioè, questa vuole essere scopata per... Se ne si è fatta inchiappettare i cuffi. Cioè, questa, c'ho l'energia, c'ho un nuovo amante. È una follia. Cioè, questa... Aspetta, dopo va avanti. Allora, è piuttosto serio. Vabbè, basta che strucinarvelo. Infatti, abbiamo pensato di avere un figlio fantasma. So che sembra pazzesco, ma ci ho pensato. E non penso che sia del tutto fuori questione. Ragazzi, Amethyst crede che sia possibile per alcune donne rimanere incinte da fantasmi. Ma poiché il corpo e la mente non sono in grado di elaborare correttamente l'esperienza, la gravidanza non va a buon fine. Esatto. A suo parere, però, le gravidanze fantasma possono essere spiegate come bambini fantasma intrappolati nei corpi umani. Tuttavia, lei rimane ottimista sul fatto che riuscirà a trovare un modo per aggirare questi limiti. Semplicemente non ha ancora capito come. Io spiegando il cazzo. Sì, esatto. Scusate, ma è il cazzo. No, può succedere. Noi, qualcuno gli potrebbe fare anche. Sì, sì. Come diceva l'inseminazione... bisogna che qualcuno ci va a parlare. E quindi. Però dai, adesso torniamo sulla Terra. E secondo lo psicologo Christopher French, pure questo Cristoforo Francese, la spiegazione razionale è data dal fatto che fondamentalmente soffre di una patologia che si chiama di paralisi del sonno, che è comune tra il 20 e il 40% delle persone, ed è uno stato tra sonno e veglia durante il quale ti rendi conto che non puoi muoverti, ma in realtà non sei completamente sveglio. In una percentuale più piccola della popolazione si ottengono sintomi associati che possono essere molto spaventosi. Quello che viene comunemente riportato è un senso di presenza o qualcosa di qualcuno nella stanza insieme a te. Puoi anche avere allucinazioni dove vedi ombre scure o figure mostruose, puoi avere allucinazioni uditive, sentire passi, voci e anche allucinazioni tattili. Puoi sentirti come se venissi trattenuto, potresti sentirti come se qualcuno stesse respirando sul letto del tuo collo, o potrebbe sembrarti che qualcuno ti stia trascinando fuori dal letto. Sì, però così. Questa parla proprio di rapporti sessuali. Cioè, un po' più. Questa sta ancora. Cioè, qui è da mettere, chiude e buttare. Ma guarda, ci sono stati invece casi. Un paio di anni fa è uscita la notizia di questa donna che aveva una patologia complicatissima, per la quale lei praticamente bastava un niente per avere un orgasmo. E questa cosa le succedeva svariate volte al giorno. Cioè, tu gli facevi, gli toccavi la spalla. No, bastavano anche, che ne so, vibrazioni. Non doveva essere un contatto fisico, diciamo, andava in metropolitana, per dire. Qualunque cosa che stimolava involontariamente. Ce l'ho. Se prendeva praticamente a 50 km orari via Gramsci qua a Monterotondo. Esatto. E la questione era problematica. Lei non poteva più vivere e lavorare, perché praticamente aveva un orgasmo ogni pochi minuti. Ma attenzione, abbiamo Lobby che ci dice che questa fase detta sonno ipnagogico. No, scusate, Lobby, telefono ci spiega. Non farci fare ste figure del merda. Telefono. Sta lì, capito? Dici cose. Dai, non farlo sfigato e chiama. Dai. Esatto. E poi astruzzi. Astruzzi, poi va, spiego io. Dai, forza. Vabbè, comunque, ragazzi, io penso che invece, proprio parlando di fantasmi, dico una cosa che non c'entra niente. Ma ho appena finito di guardare una serie che si chiama. Non mi ricordo come si chiama. Molto bene. Aspettate. Ma di che parla? Non me lo ricordo. Parlate che ve la vado a cercare. Non c'entra così un cazzo che. Però ci sta uno che fa cose. sono quasi sicuro che ci sta uno che fa cose. Vabbè, è triste questa cosa. Comunque. Vabbè, parlate, raccontate le altre notizie. C'è un'altra notizia simpatica su gente che dimentica le cose. Non lo so, me ne sono scordato. Ah, bene. No, però nel frattempo, mentre Simone parla della serie di cui voleva parlare, io ve la butto lì così. Su Netflix, una serie molto bella che sta uscendo, che è uscita in questi giorni, vi consiglio di vedere, è Hill House. Nel frattempo partono dei filmati, delle musiche, dei contributi. Non so come fermarla questa cosa. Aspettate un secondo. Niente, ormai lo spoiler. Lo studio praticamente è come Skynet, si alimenta da solo. Ah, eccolo qua. Comunque c'è una cosa. The Boy. Cioè, perché queste bambole? The Beach Boy. Ah, piccoli bimbi. Allora, praticamente, sì, se te stai zitta, magari. Ok, allora praticamente questa serie si chiama Haunted. E praticamente è una serie di 6 episodi, tipo, dove, cioè, io penso che non è mai stata fatta cosa più basso costo nella storia di Netflix, penso, perché è una serie originale Netflix. Prendono veramente 6 persone che raccontano 6 storie vere, tra virgolette, spaventose, horror, insomma, che hanno vissuto. E praticamente questi stanno dentro sta stanza con degli amici, dei parenti, più un esperto della tipologia di evento, insomma, che vanno a trattare. Di solito comunque tutte questioni legate ai fenomeni paranormali. Per esempio, il primo episodio c'è la donna in bianco, cioè praticamente quella che non scopa mai, è sto ragazzino che sogna praticamente una tipa che gli esce fuori dall'armadio impiccata, che rappresenta, insomma, la malvagità. Poi c'è un altro, lo scannatoio, che praticamente questa era la figlia di un serial killer, e questo ammazzava un sacco di gente, praticamente una cosa, vabbè, comunque, il demone nel buio, e ci stanno pure gli alieni, chiaramente. In questo fenomeno dei paranormali c'è anche l'infezione aliena, cioè di quella che viene rapita dagli alieni, quindi ci stanno fantasmi, questioni, insomma, veramente horror, tipo appunto questo qua che squartava le persone, demoni, e poi ci stanno ovviamente pure gli alieni. 6 puntate, ma durano tipo 25 minuti l'uno, di questi che parlano, e ci sono alcune sequenze di ricostruzione fiction, ovviamente, di quello che succede. Ma è girata come fosse una docu-fiction, praticamente, cioè finge di essere vera, alla Blair Witch. Non è che finge di essere vera, è tutto molto da set, cioè tutto molto studiato. Questi qua stanno a studio, quindi stanno in uno studio televisivo, quindi parlano, non sono consapevoli di stare in uno studio televisivo, e ogni tanto si inframmezzano praticamente queste ricostruzioni fiction fatte bene, cioè girate anche bene, ma una roba proprio da 20.000 lire, cioè nel senso, una delle più, ragazzi, c'ho un po' di crisi in questo momento. No, Netflix sta compensando cose buone, perché io per esempio ho finito L'Alienista, e L'Alienista, nonostante non essere la serie che io mi aspettavo, comunque era una buona serie, cioè nel senso, capito, Pizzi, però mi chiudi Luke Cage e mi chiudi Iron Fist, quei pezzi da 90. Oh, no, si stanno chiamando, attenzione. Attenzione, rispondi. Attenzione. Rispondi. Pronto? Pronto? Chi è? Ah, ci pronta? Pronto? Sì, pronto. È Lobby qui. La Lobby. No, no, allora spiegaci. Noi abbassiamo un po', sì, no, leviamo, il sottofondo. Leviamo proprio il sottofondo. Mi sento male, madonna, che allora, Lobby, raccontaci. Buonasera, cari. Buonasera e bentrovato. Buonasera. Dovremmo, Simone, se puoi, dovremmo alzare un po' il volume da casa perché arriva bassissimo. Sì, sì, e qui siamo al massimo. No, sì, ma Marco, se te stai buono un attimo, posso dare. Non si può. Allora, secondo solo. No, è dal mixer, maestro. Non si può. Lui esce da là, però lui ci sente dal telefono, quindi. No, no, per Lobby sì, certo. Tanto non ci vedo. No, ora la domanda però, scusate, sono incespicamenti delle prime volte. Mi sembra che noi non lo stiamo sentendo. No, adesso se parla mi sa che arriva direttamente da... Io non lo vedo, ragazzi. Prova a parlare. C'è qualche problema. Ok, adesso è tornato... Okay. Ma lo sentiamo quasi meglio dallo speaker che dalla cuffietta. Comunque. Vai, raccontaci spiegaci, tu. Ma urla, urla. Spiegaci questo fenomeno di questa ragazza. Che volevate sapere? Le illusioni, che volevate sapere? Dite. Questa che è convinta di fare sesso con i fantasmi. Praticamente. Che succede? Voi sapete che c'è il sonno non... mettete musicazione appropriata, mi raccomando. Allora... C'è il sonno non REM in cui siamo fermi, bello sonno profondo, e il sonno REM in cui sogniamo. Che succede quando c'è il sonno REM? Che per evitare che noi andiamo i sogni, cioè iniziamo a muoverci, ci sono dei sistemi cerebrali che dicono sistema muscoloscheletrico, fermate. Allora può darsi che in queste situazioni ovviamente siamo svegli, però c'è ancora questo sistema attivo in cui siamo bloccati e quindi non riusciamo a muoverci, ma contemporaneamente stiamo sognando e quindi viviamo queste esperienze particolari. Poi che ci sia anche qualcosa di più psicopatologico nella tizia, che ci sono dentro i fantasmi, è una cosa a parte, quello che è una perizia psichiatra, quindi non saprei dire altro. Poi prozacchino per la signora? Porca. Non so, nel frattempo spippolano con i volumi di canali a caso, stiamo facendo esplodere lo studio, non ti preoccupare. Ma che ho messo l'audio delle cuffie al massimo per sentirti, poi Walter ha parlato e comunque, ragazzi, mi sento tipo una perturbazione dello sport, mi sento belli stressatini, mi sento un po' fattalice, non so perché. È perché è finito quello buono. È un esercizio che serve subito a rilassarvi, lo dovete fare. Vai, dici. Allora, rapido, musicazione rilassante, se ce l'avete. Allora, inspirate profondamente ed espirate. Ammazza che palle. Inspirate profondamente e rimanete così. Vi passano tutti i mali così. Ah beh, certo. Se avete dei cuscini da mettere vicino alla bocca, meglio ancora. Così passano tutti i problemi. Tutti i mali, va bene. Però l'aria esce da un'altra parte. Va bene lo stesso. La scopa in culo pure? Dopo sta cazzata mi ritiro. Ritiro di grazie per la consulenza, dottore. Poi come sa può fatturare al dottor Pizzi? Sì, assolutamente. Fattura in cloud, sì, assolutamente. Mi passo tutto. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Oh, intanto il Porto 3 gol al Lokomotiv Mosca a casa del Lokomotiv. Io direi che dalla prossima volta dobbiamo ottimizzare questa cosa delle telefonate, perché c'è qualcosa proprio che non dovremmo fare dei test prima delle dirette e ci organizzeremo per farli. Dai. Dei test. Comunque ho iniziato a vedere anche un'ennesima serie su Netflix, che già la terza puntata mi ha veramente rotto il cazzo. Però questa non è Netflix, eh. Ma ce ne sono diverse che fanno questa fine, eh? Cioè tipo Salvation, ragazzi. Salvination. No, non ce l'ho fatta neanch'io, ma lì c'è JJ di mezzo. No, è Kutzman. Vabbè, ho capito, è tutto la sua cricca. Produttore esecutivo, c'è proprio allo scritto gigante Executive Producer Alex JJ Kutzman. Esatto. Ma ho scoperto che c'è Kutzman di mezzo anche in un'altra serie che stavo guardando in questi giorni. Tipo Discovery. No, in questi giorni, però adesso non ricordo qual è. Purtroppo c'è sempre. E poi come Glenn Allardson negli anni 80. Tra l'altro il buon Lucio, che insomma da poco ha cominciato a interagire forte con noi. che contesta a mani basse Discovery, dicendo che... A proposito, Lucio, prima ha fatto una domanda interessante che noi adesso dovremmo porci. Dice, tornando al discorso della tizia dei fantasmi, ma quindi per questa signorina ametista, Star Wars la minaccia fantasma è un film porno? Secondo me è più un film di stalking. Un po' sì. Perché la minaccia fantasma, dai. Le avventure fantasmagoriche. Vabbè, è sceso il gelo, cioè, è stato zitto per mezz'ora e... secondo me è stato colpito. Vi ricordate la maledizione che ti possa diventare che tu possa diventare muto, ma completamente muto, ma che non possa più dire nulla, che non ti riesca più a proferire una cosa, tranne quello era Frengo. Che cacchio era? Albanese. Frenga. Ah, sì, che tu possa Alex Drastico. Alex, che tu possa tornare la voce solo una volta, in quale tu spari delle cazzate in mani. Ecco, lui è così. Lui è stato colpito dalla maledizione di Alex Drastico. Ho capito. Che fatica, ragazzi. No, dicevo. Vabbè, comunque l'alienista è da vedere. Lucio, comunque, quando abbiamo citato Discovery, Lucio subito si è acceso e ha detto: devono morire tutti. Esatto, ma poi ne riparleremo quando inizia gennaio. Ne riparleremo, come abbiamo fatto l'altro anno, dove ogni settimana facevamo il commento della puntata della settimana, insomma, perché è giusto. Sì, ma appena ricomincia noi faremo la rubrichetta, di Io però non ho l'assets della lo recuperiamo, ce l'ho in una delle puntate. Lo recuperiamo, recuperiamo. Invece volevo dire, no, Netflix, sì, effettivamente io continuo a sostenere che abbiano questo piccolo difettuccio per cui hanno sostituito la qualità con la quantità, perché devono fare massa critica. Però per esempio ogni tanto prendono anche delle decisioni giuste, a meno che, perché Gualdi prima diceva, ma come hanno tolto due pezzi da 90 come Iron Fist pezzi e Luke Cage. Io non vorrei che fosse in realtà l'anticamera di Heroes for Hire, che potrebbe forse essere l'unica salvata di quello, ma secondo me quei due personaggi, per come li hanno costruiti, funzionano bene solo se Luke Cage lo butta nel culo ad Iron Fist, perché Iron Fist è intollerabile, assolutamente, è proprio lui, cioè lui personaggio è costruito. Ma io comunque, hanno ragazzi, tutte le serie a parte Daredevil, no, ma secondo me è proprio, cioè nel senso, proprio come l'hanno, ma al di là dell'attore che è quello che è, ma secondo me proprio come lo scrivono loro. Guarda, che a me non è dispiaciuto neanche The Punisher, se non fosse che The Punisher l'attore è poco espressivo, però la serie c'è sta. Beh, quello perché è rimasto traumatizzato che è morto in The Walking Dead, può quindi. darsi. No, io non sono convinto. È quello di... che si scopa la ragazza. La moglie. È morto. La moglie. No, è quello morto. Il fantasma che morto. Si scopa la ragazza. Esatto. Poraccio, questo ce l'ha con le mogli. Nel senso che. Questa cosa di Haunted, nell'ultima puntata c'è la tizia che c'è il fantasma che se la tromba. Ma dall'altro, quindi, perché l'ho ricollegato un po' a queste cose. Dovremmo vederla questa serie. No, assolutamente. Un po' come Entity. Però io. Dovrei scoprire. Bravo. Entity, per esempio, è un film che va visto. Mi piacerebbe fare una visione collettiva tipo Cineforum. Perché Entity, che sicuramente Cusella non ha visto, è un film che quando ero ragazzino mi ha fatto due effetti. Mi sono cagato sotto, esatto, in maniera improponibile, però, e mi sono fatto una pippa. Però, pippa di diarrea. Scusate, posso dire una cosa brutta? No, perché c'è la scena che il fantasma se la tromba. Che posso dire una cosa bruttissima? Sai, a una certa età, 14 anni, tutto era materiale da pippa. Mi ha evocato una scena molto più disgustosa. Non so se vi è mai capitato quelle volte che proprio stai male in bagno e vomiti e c'è la diarrea all'unisono. Sì, come no. Mamma mia, mi ha fatto venire. Scusatemi, ma mi è venuta in mente quella scena bruttissima. Io fumavo nel frattempo, quindi. Certo. Niente. No, io invece non sono molto d'accordo. Secondo me Netflix complessivamente, in tutta quanta la roba che io ho visto, e chiaramente è anche una questione di selezione che uno fa, no? Perché chiaramente non è che ti metti a vedere tutto quello che Netflix te propina, perché ci sta di tutto dentro. Non basta una vita. Chiamiamola con il suo nome, monnezza. No. C'è però anche io, la monnezza. Ma inevitabilmente. Il film del monnezza sarebbe meglio. Inevitabilmente c'è anche la monnezza. Allora devo dire, complessivamente, tra quello che io ho visto, tra le cose negative e le cose positive, io sono comunque a un anno, forse più, di distanza dal mio abbonamento a Netflix, io sono più che soddisfatto. Quindi, cioè, raramente mi è veramente capitato di vedere roba tipo sto Haunted che fa veramente schifo. Ma guarda, Netflix ha il vantaggio che la loro politica di prezzi e la libertà che ti danno, diciamo, di condividere l'account è tale per cui io pago 3,50€ al mese condividendo l'account con altri tre amici, per cui è una spesa talmente irrisoria che anche se mi dessero ci solo la parte sopra, scadente dei loro programmi, comunque andrebbe bene. Perciò voglio dire, ho visto tantissime belle serie, loro e non loro, quindi da questo punto di vista niente da dire. Però oggettivamente, se invece di produrre 20 serie medie con 2-3 exploit positivi e 4-5 immondezze totali, avessero deciso di farne magari sempre solo 10, ma tutte con una certa cura e soprattutto spaziando un po' di più nei generi, non sarebbe neanche stato male. Al momento Netflix si concentra, secondo me, un po' troppo su alcuni generi e ne tralascia tanti altri. Il genere, diciamo, psico-horror ne stanno facendo veramente troppi. Poi anche belle serie, come dicevo, Hill House la consiglio. È il genere del momento, quindi bisogna dire che in effetti questa è un po', cioè, tutta questa questione horror. Secondo me su Netflix, ad esempio, mancano il Paris Saint-Germain ha pareggiato a Parigi col Napoli in questo momento. Nel frattempo l'Inter continua a perdere a Barcellona. Mancano, per esempio, proprio serie di porno. Mancano serie come proprio Mindhunter, per esempio, Mindhunter, cioè nel senso, comunque l'investigativo, quello narrativo, quello asciutto fatto in una certa maniera, o anche comunque il poliziesco, un po' questi generi, per esempio, mancano, ma perché sono generi che in generale oramai non vanno più tanto di moda. Non vanno più tanto, sicuramente, però insomma, ecco, sarebbe Netflix ha il compito di dover accontentare sui suoi 100 rotti milioni di utenti i gusti un po' di tutti. Se invece ti concentri troppo su alcuni generi, rischi che poi si creerà una sorta di preselezione e tutti quegli utenti che non apprezzano determinati generi poi andranno a cercare altrove. Questo poi è da vedere. Peraltro Netflix, ragazzi, voi sapete che in Europa stiamo rischiando veramente una situazione scomodissima? Ovvero, sapete che l'Unione Europea vorrebbe imporre a tutte le piattaforme, non a Netflix nello specifico, ma a tutte le piattaforme come Netflix, di mettere in ogni nazione almeno il 30% di catalogo che sia stato prodotto in quella specifica nazione. Bello, noi italiani siamo fortunatissimi. No, ma io dico, cioè, considerando che Netflix ha un catalogo enorme, molto più grande di quello che potrebbe essere il 30% di produzione italiana, ma come si fa a gestire una cosa del genere? E soprattutto, se tante è lecito imporre l'utilizzo questo di determinate film, se lo fa l'Unione Europea, lo fa in modo che lo sia. Il problema è un altro, costringere a comprare le cose. Il problema qual è? Che se non ci sono tanti prodotti, oppure se la gente non guarda certi prodotti, è perché questi prodotti fanno schifo, non perché non è Netflix che boicotta il prodotto italiano, è che lo spettatore di Netflix del prodotto italiano non gliene frega niente perché è scadente. Difatti, allora, su Netflix ci sono delle produzioni italiane belle, che non è bello Don Matteo, però insomma fa ascolti. C'è Gomò, c'è Suburra. E ci saranno a breve anche altre produzioni. Ci sono stati già dei film italiani prodotti da Netflix, c'è stato ad esempio, ma già Netflix è obbligata a mettere roba italiana, un X percentuale, c'è già una legge nazionale su questa cosa, ma in realtà il problema è questo, ecco perché hanno messo Don Matteo, se no ci avrebbero messo col cazzo. Che c'entra? Se allora il meccanismo è un altro, che se il proprietario dei diritti va da Netflix e gli propone il suo catalogo e si mettono d'accordo, Netflix è stata obbligata a farlo, perché comunque ci doveva avere un X percentuale dei prodotti italiani all'interno della televisione, prodotti della televisione. Poi io mi domando veramente, ma chi cazzarola mai li andrà a guardare? Però vabbè. Infatti, perché poi vai a vedere, cioè, se non stanno minimamente nelle classifiche. Perché è roba veramente inguardabile? Soltanto che così e anche facendo, perché chi il pubblico di Netflix è un pubblico più maturo, cioè nel senso, è un pubblico più selettivo, cioè non necessariamente, diciamo, sì, più smaliziato. Esatto, più maturo, cioè il pubblico che non va a cercare Distretto di Polizia, ma magari va a cercare Gomorra, per dire, no? Cioè cerca comunque, diciamo, prodotto di qualità. Sono cose vecchie, Hill House, io vedo iniziare a vedere Hill House. Le cose vecchie italiane non ne vanno a ricercare su Netflix. Ha delle chicche di regia da proprio non da ci dire niente, non ci no, ti dico solo non che c'è niente, è già uno spoiler notevoli, veramente notevoli. Se no fai come Sbano, no, non ti dico niente che la non bambina muore. Niente. Non ti ho detto che getto la bambina nel pozzo. Esatto. Scusa. E vabbè, comunque, torniamo a qualche notizia, insomma. Gualdi. Non ce l'ho. Ah, non ce l'hai? Deve per cazzo in piedi, no? Guardi, questa sera sei insopportabile. Non c'ho niente, non c'ho lo schermo. Devo fare un cellulare avanti e indietro. Ragazzi, ma invece l'avete anch'io, visto? Non si può lavorare così, ragazzi. Vi racconto questa cosa: l'avete visto che in Cina praticamente hanno fatto una replica assolutamente illegale della Lamborghini Murcielago? Cioè, no, anche in Cina, scusate, in Iran. Praticamente Murcielago? Cioè, fatta di Lego? Dai, la Murcielago, la Murcielago, sì, la conosco. La Murcielago. Ma quale? L'LP 640? Allora, è un modello che era uscito di produzione da poco. Cosa hanno fatto questi geni iraniani? Praticamente l'hanno ridisegnata completamente in CAD e l'hanno fatta praticamente in versione finta, basandola su un motore V6 della Hyundai. Quindi sostanzialmente hanno utilizzato il piantone e il motore Hyundai e sopra ci hanno messo una carrozzeria che, se tu la guardi, dicono è impressionante, non è la cinesata diciamo che riconosce a 6 km, è una copia praticamente fedelissima anche negli interni, nei materiali eccetera della Murcielago, che però in realtà poi appunto c'ha un motore coreano della Hyundai e che però loro venderanno comunque a caro prezzo. La venderanno ovviamente solo in Iran, il problema vai a fare causa agli iraniani, e la venderanno comunque ad una cifra significativa perché comunque è fatta artigianalmente, e dice che ne hanno già ricevute 200 prenotazioni. Ma guarda, io sapete che sono sempre a favore dell'Iran in qualsiasi cosa che fanno, perché tu gli vai a rompere, perché c'hanno i carri armati, no posti. Ma secondo me gli vai a romper cazzo, gli fai l'embargo, gli blocchi l'importazione e l'esportazione e loro se costruiscono da sole le cose. Bravi iraniani, grandi. Vabbè, ma mica stanno costruendo la panda, stanno costruendo un pezzo Ho capito, fate meno gli stronzi che noi famo come ci pare, cioè c'hanno ragione, questi subiscono immotivatamente atteggiamenti vessatori per colpa degli Stati Uniti, e allora dice: sai che c'è, io decostruisco la macchina che assomiglia alla Batmobile, bene? Cazzo vuoi? No, per carità. Ma di qualcosa, c'hai qualcosa da dire? No, assolutamente. Ah, no, a posto. Ma invece, ragazzi, sapete perché se c'hai qualcosa da dire io Lo sapete cosa è successo a Napoli per la serie Piccoli criminali crescono? No. Un geniaccio che ha pensato, ha visto una coppietta appartata, diciamo, sai, faccio, mo li vado a scippare. Non t'ha scippato una coppia dei carabinieri? Grande. Insomma, per la rubrica poteva succedere ovunque. Grande. Carabiniere, grande. Una carabiniera o due carabinieri? Allora, sostanzialmente, lui ha visto questi due carabinieri che sembravano una coppietta, complice il buio e il fatto che in quella zona di solito è un riparo per chi si vuole appartare. Anche perché secondo me questi carabinieri non ce la raccontano e proprio. Invece a Fratta Maggiore, questi due vedi, Fratta Maggiore, esatto, vedi, infrattoni, esatto. Gusella, che vuol dire infrattarsi? Dai, ci può arrivare, dai. No. Sì, no. Ni. Sì. Allora, la fratta sì. Che cos'è? Partiamo dall'etimologia della parola fratta. No. Facendo il gesto di un triangolo. Allora, sì, in realtà lì ci il buon Plantone ci dice che hanno copiato anche gli F-22. Bravi, hanno fatto bravi. Se qualsiasi cosa fa l'Iran, però per hanno i motori di una 500. Decollano. Dice si fratta, c'è spuglio di generose dimensioni. Quindi, quando uno dice per deduzione mi vado a infrattare, sostanzialmente vuol dire mi vado a infilare nei cespugli. È ovviamente un'iperbole per dire mi voglio appartare con la ragazza. E quindi affratta. Ma scusa, perché glielo chiedi e va poi nel suo boschetto. Se tu glielo chiedi e poi glielo spieghi, scusa, fai il segno. Però ci avevo preso, Fratta, Camporella, sai. Ci avevo preso. Vabbè, fatto sta che questo signore Antonio Carrese, hanno scritto nome e cognome, salutiano, ciao Antonio, un 41enne residente nel quartiere. Così lo coglionano ancora meglio. Eppure di Secondigliano, quindi voglio dire, già noto alle forze dell'ordine, è stato beccato in questa situazione quando praticamente ha cercato di circa l'una di notte rapinare questa coppietta appartata lì nell'automobile puntandogli una pistola. Soltanto che praticamente Lobby dice che Fratta Maggiore la conosce molto bene. È perché ci si infratta anche lui, no? Capito, e quindi insomma, tra l'altro la cosa divertente è che l'arma con cui ha minacciato la pseudo coppietta era un'arma giocattolo. E tra l'altro lo scooter aveva la targa scritta a penna e tante altre belle cose. Insomma, questo secondo me l'hanno portato a Poggio Reale, hanno buttato la chiave. Però vabbè, complimenti. Non c'è neanche bisogno di chiudere la chiave, rimane lì dentro da solo. Fatemi uscire con la porta. Dice scemo com'è, può darsi. Comunque sono brutte queste storie d'amore che finiscono male. Ce n'è stata un'altra in Texas che non è finita molto bene. Allora, sapete che in Texas ci sono delle leggi, come in altre parti del mondo, particolari. In Texas ci sono delle leggi? Ci sono delle leggi particolari. Ma un po' più indietro. Niente. Scusate, noi ce ne sono tutte le puntate, cerchiamo di farvi guardi al microfono. Ancora gli devi spiegare così. Cazzo qui dove c'è. Ma c'è la scritta. Non vedo niente. C'è la scritta, parla qui. Non vede niente. Parla qui. Sei cieco, cazzo. Sei più cieco dei mesi, io. Comunque, non gli facciamo vado. Un quiz, amici ascoltatori. Indovinate di quale dei quattro speaker è stato preso dalle categorie protette. Esatto, diciamo che potremmo essere io e Pizzi. Pensa adesso un po', te si sente pure. Ma è incredibile. È incredibile, sì. Vabbè, mettetemelo dritto questa cosa, dai. Molto mettiamo dritto noi. È fatto mettere dritto da qualcuno. Oh, Cristo santo. A due, sono due. Esatto, 20 euro, 20 euro. Esatto, cioè io mica ho detto cosa. Ma il priore? Priore mo esce, Questa questione è quello di Alex. Domani esce. Comunque, in ogni caso, che è successo? Che in Texas ci sono queste strane regole che praticamente vietano i rapporti extraconiugali. Cioè, tu praticamente, se tradisci il tuo partner, puoi essere denunciato dal tuo partner tradito e portato in causa. È successo praticamente a Francisco Wizard III, che è appunto residente in Texas. Proprio un nome texano. Vabbè, ma lì capirai, vicino al Messico, vicino tanto per dire, insomma. Non dico così che Trump gli viene infarto. Comincia a costruire i muri. Quantomeno c'è un muro a dividere le due nazioni. È un macello che poi ha fatto pagare a qualcuno. Vicino a Messico, Ha avuto una relazione per 16 mesi con Danielle Swords, che è moglie di Kit King, che pure qui sembra un personaggio dei film. Io smetterei di leggerli questi nomi perché pare che ce li inventiamo noi la notte. Invece no, sono proprio veri. Praticamente questa Danielle Swords è un'organizzatrice di spettacoli su BMX, quindi immaginate questo brigichette? Fisico comunque muscoloso, atletico. No, cominciata. Aspetta, BMX, davvero la domanda sulle biciclette? Sì, sì. Ah, okay. Spettacoli su BMX. È stata scoperta dal marito, appunto, da Kit King. Kit King. E mo che te devo dire? No, non dire niente che è meglio. E ha denunciato e portato in causa, appunto, Francisco della Suerte III lì. E lui è stato condannato al risarcimento di 8.8 milioni di dollari. Io leggo 88 nel titolo. No, 8.8, c'è un errore, sono 8 milioni di dollari, sono casino, ragazzi, cioè, 8 milioni, no, assolutamente. Praticamente era ancora sposata, c'erano qualche un po' di maretta, un po' di crisi, ma comunque il matrimonio reggeva. Quando praticamente sto tizio ha scoperto la pregna, ha scoperto che la moglie... Guardi, un po' di pathos, che diamine! No, c'è tanto pathos, cioè deve dare 8 milioni e 8 milioni e 8, cioè non è... Se me li dovesse dare a me, vedresti il pathos, senza 8 milioni e 8! Ma infatti Kit sta tranquillo, me frega, ma me devi dare 8 milioni. Kit vive in North Carolina, è uno stato dove è legale citare in giudizio qualcuno per alienazione di affetto, cioè per essersi impegnato consapevolmente in relazioni extraconiugali. C'è pure il crimine, alienazione di affetto. Vabbè, ragazzi, ci sono stati americani in cui il sesso orale è vietato per legge. Assolutamente, quindi c'è un po' di... in America sono strani. Ma una cifra, guarda un po' che hanno le... no, non lo possiamo più dire, manco noi. Purtroppo no. Meglio comunque, in ogni zitti. Caso, spera questo Francisco della Suerte Moldavo Quinto di riuscire a far capovolgere. Mi nombre è Sinigo Montoya, tu hai matato mio padre, preparati ma a morire. È molto probabile che insomma questa condanna sia perlomeno confermata. Vabbè, ma Simone ce l'ha qualche notizia? Troppo sì, a proposito di legalità. Di legalità, sì, vai. A proposito di legalità, sulla legalità ci piacciono. Come alcuni di voi sapranno, in Canada è stato legalizzato l'uso della cannabis ad uso ricreativo. Sì, è giusto. Da qualche giorno. È giusto. E a quanto pare le scorte sono già finite. Quindi da un giorno all'altro si sono già fumati tutto. È bella la tua storia. Beh, tra l'altro è anche un bel problema perché a quanto pare c'è anche un rischio considerevole di lasciare spazio al mercato illegale, no? Quindi cioè di rilasciare spazio. Perché loro esatto, cioè, perché la motivazione per cui di solito uno fa sta cosa è per impedire, no, al mercato quello. E invece dice vabbè, questi sono già fumati tutto. Due cose: impediamo al mercato nero, perché in questo caso sarebbe mercato nero, di prendere il nostro posto, e due, ci incassiamo i soldi. Ma forse secondo me la quota che hanno dato era... Ma scusa, sequestriamo tutto l'illegale e rivendiamolo noi legalmente. Il problema è trovarlo. Se no l'avrebbero già fatto. Se lo sono già fumato tutto anche quello. Ma no. Infatti c'è stata un'impennata di richiesta incredibile. Ma comunque sentite ragazzi, Lucio ci racconta questa storia che non so se l'avevamo raccontata anche noi qualche secolo fa, di questa storia di questo tizio che ha rubato l'auto della polizia e poi ha sfrecciato 200 orari davanti all'autovelox con la macchina della polizia. questo è un genio però ragazzi, a differenza di quello di prima, questo è un genio. Cioè, ripeti, non ho capito. Un tizio ha rubato un'auto alla polizia, okay, e dopo è sfracciato con la medesima auto davanti a un autovelox a 200 all'ora. E quindi vabbè, si sono beccati da Monte Carabinieri. E certo, ma la devono pagare. È bellissimo. Fantastico. Beh, però comunque, i carabinieri hanno detto non guidavamo noi. La polizia va forte stasera, eh? Sì? Sì, sì, sì, perché a quanto pare sono, insomma, ancora loro i protagonisti di quest'altra notizia. Verbania, ucraino insulta poliziotti in napoletano, denunciato. Ma perché insulta i poliziotti o, per o perché fatto il napoletano? Esatto. Perché l'insulto è napoletano, ah, questa okay. è la cosa strana. Ucraino che insulta i poliziotti in napoletano, ovviamente è questo che ha fatto notizia. Beh, guarda, io vedo spesso questa scena, mi è fatto venire in mente di, cioè il marito di una zia della mia ragazza che è di origine kosovara. Lui è arrivato in Italia a Napoli, si è poi sposato con appunto la zia. E lui ha imparato sostanzialmente a parlare italiano in quel contesto. Lui praticamente parla questo napoletano con questo leggerissimo accento kosovaro, ma diciamo è veramente divertente, perché poi magari l'italiano proprio pulito, preciso e perfetto non lo conosce proprio, e parla questo semi-napoletano che è divertentissimo. Beh, io c'ho un mio amico che vive a Sydney, cioè che lui è nato in Australia da famiglia italiana. E a un certo punto la famiglia italiana ha provato a ritornare in Italia con tutti questi, con i due o tre figli che c'aveva, che erano abbastanza giovani. Vediamo tipo, se indovino, calabresi? 13-14, no, di Roma. Credi no, perché di solito sai Roma, che l'Australia praticamente è un feudo calabrese. Più che di Roma, feudo romano, fiano romano. Ammazza proprio di zona. Esatto, e praticamente lui le prime parole che si è imparato in italiano erano le bestemmie. Mi sembra giusto parolacce e bestemmie. Tu pensa quanto è triste la lingua inglese che non ha le bestemmie. È vero, che poi è relativa a sta cosa, cioè no, perché non ce l'hanno. Un po' mi sono documentato sta cosa. Non è proprio, cioè diciamo il concetto di bestemmia che è diverso comunque, perché sì, comunque l'imprecazione rivolgendosi esattamente a, perché comunque cioè, nel senso noi abbiamo l'abitudine di una determinata cosa, però comunque cioè nel senso il per una certa, voglio dire, fascia ultracattolica, tu fai un'imprecazione su Jesus Christ, per loro quello è già grave, sì, sì, ma noi invece noi lo invitiamo proprio a scendere a fa botte, secondo me nelle altre diciamo che non lo fanno. Imprecazioni mettendo di mezzo varie, diciamo, figure sacre, consideriamo le blasfemie, in televisione tu le puoi sentire. In alcuni telefilm, beh, per esempio, Dexter, Dexter no. Diceva bestemmioni che poi in italiano non venivano assolutamente censurate però cioè, sì, diceva di cotte e di crude, però. Diceva delle robe sulla Madonna che ti dico levate, insomma, se te lo vai a sentire in inglese pedalava come filava, no, terribile, cioè. In effetti mi faceva anche un po' specie che in un paese come gli Stati Uniti, che comunque poi alla fine c'è una certo, in un telefono dove il protagonista squarta quattro persone a puntata e le butta al largo al mare, allora poi ti però il questa, linguaggio però giusto. Questo è come sì, beh, questa è cronaca, questa l'ipocrisia di YouTube, no, che tu ci stanno i ragazzini a 12 anni che bestemmiano e va bene, poi fai vedere una zinna e te censurano il canale, cioè. Vabbè, ma ragazzi, questo in Italia è stato fatto anche al contrario. Ma questo succede in generale, è proprio a livello globale, non è un problema italiano. O il video della Casa Blu. In Italia c'erano anni che criticavano il telegiornale delle 20:30 perché faceva vedere scene di guerra violente. 5 minuti dopo c'erano le veline che si vedevano praticamente lo scoscio in cui c'era. Quello non è una scena violenta. I genitali dei fori. No, è una bella scena. Bella però. Scena, cioè è tanto amore, tanta bella, tanta beltà, insomma, perché. Vabbè, io direi che allora io farei lancerei un attimo un brano e poi andiamo alla parte finale. Guarda, è un brano che non abbiamo mai messo, sì. Adesso prego. ce lo ascoltiamo, no. Ragazzi, no, scusate, lo devo dire. Napoli 2 Paris Saint Germain 1. Grande Napoli. E questa è un gruppo, una band che non abbiamo mai messo in questa band nuova sconosciuta, questa trasmissione. Sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, rolling around in the car now. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. E nel mondo, nella trasmissione dei disagi mentali, vi abbiamo messo una band che non abbiamo mai messo. No, non è vero. Però stiamo riciclando. Questi secondo me Stiamo riciclando. Riciclando continuamente. Però siamo proprio nel mood, perché comunque c'è gente che nel mondo ricicla. Bisogna riciclare. Sì. È importante riciclare. Come fare la differenziata. Però c'è una donna al mondo che ha un nome. Raga, questa si chiama Tippi Toll. si chiama così. Mo che volete, mo se inventiamo i nomi, no, si chiama Tippy Toll. Ha deciso che praticamente vuole riciclare tutto